Ora la NASA ha concesso l'uso della piattaforma 39A alla SpaceX. L'obiettivo a lungo termine della SpaceX è sviluppare la tecnologia necessaria per costruire una città autonoma su Marte. La missione principale della SpaceX è rendere la vita multiplanetaria. Possiamo esplorare l'universo, colonizzare Marte, diventare multiplanetari. Al di là del problema ingegneristico, però, servono persone mosse da passione, felici di lavorare sodo per questo obiettivo. Quando Elon Musk disse: «Ho intenzione di fondare un'azienda aerospaziale mia», tutti pensarono che fosse pazzo e lo derisero. Oggi la SpaceX può vantare il maggior numero di lanci rispetto alle altre compagnie di razzi al mondo e ha stipulato con la NASA contratti per l'approvvigionamento delle stazioni spaziali. Il Dragon è il primo veicolo spaziale commerciale a visitare la stazione spaziale internazionale. La SpaceX ha investitori, punta ai profitti, punta al business dei lanci dei satelliti. Sono miliardi di dollari, ma allo stesso tempo si impegna per portare una nuova civiltà su Marte. E per questo le aspettative di ogni lancio sono enormi. Penso che sia importante sviluppare una colonia autosufficiente su Marte il prima perché o diventiamo una specie multiplanetaria, una civiltà spaziale errante, o resteremo bloccati su un pianeta in caso di un evento di estinzione. Se vogliamo che il futuro sia entusiasmante, non rimane che la prima opzione, diventare una civiltà spaziale errante. Boca chica. Космодром. Boca chica. Космодром. E bentornati a Boca Chica Cosmodrom alla puntata 10. Bimbo, buonasera. Buonasera, non sento niente, la cuffia non funziona. Tu mi senti? Io ti sento da qui, non ti sento da non ti sento dal mixer, ma ti sento dal vivo. E quindi non funziona neanche il microfono. E quindi forse non funziona manco il microfono, quindi stiamo facendo un discorso tutto molto così. Va bene, comunque, intanto mentre Bimo sistema il microfono, che al momento sembra non funzionare, oggi iniziamo tutti un pochino in ritardo. E siamo in diretta da Radio Forte, quindi dalle stanze del Forte, Radio Forte da Forte Prenestino. E siamo alla fine del secondo corridoio, sulla destra, dove trovate la scritta On Air. Beh, insomma, siamo arrivati quindi alla decima puntata, non era una cosa affatto scontata, ci siamo però arrivati, con un po' di problemi tecnici che state sentendo. Che cosa abbiamo ascoltato? Beh, insomma, allora, prima di dire che cosa abbiamo ascoltato, vi ricordo un po' di nostri indirizzi. Intanto vi potete iscrivere al canale di Boca Chica Cosmodrom su Telegram, che è appunto chiocciola Boca Chica Cosmodrom, oppure ascoltare i podcast sul sito della radio, andate sul sito di Forte Prenestino, forteprenestino.net, e lì trovate la pagina della radio, e con la pagina della radio ci trovate tutti i nostri podcast, ne sono ben 10, anche se questa è la puntata 10, c'è anche una puntata aggiuntiva di Bogdanov Cosmodrom, che è una trasmissione parallela di cui abbiamo fatto una sola puntata, ma insomma comunque siamo fieri anche di quello. E che cosa ascoltavamo? Ascoltavamo in realtà un pezzo preso da una docufiction che abbiamo citato spesso, Marte, della National Geographic 2017, la voce tra le altre doppiata era anche tra quelle di Elon Musk, perché una parte è fatta di fiction, una parte è fatta effettivamente di persone vere e proprie, di scienziati o imprenditori spaziali che illustrano un po' quelli che sono i primordi del capitalismo spaziale. D'altro canto, di capitalismo spaziale stiamo parlando, di space economy in tutta questa lunga queste lunghe 10 puntate di 2 ore l'una. Elon Musk citava due cose molto interessanti: da una parte la società multiplanetaria e dall'altra la società spaziale errante. Che dire, società multiplanetaria sembra qualcosa a cui non possiamo e non potremo sottrarci. D'altro canto, il capitalismo probabilmente ha deciso di diventare multiplanetario e quindi lo farà. Ma il che non è neanche necessariamente una cosa sbagliata. Lo spazio interessa tutti, a noi interessa moltissimo, non ci interesserebbe non andarci con i presupposti del capitalismo spaziale. Dall'altro, la società spaziale errante, concetto interessante sul quale potremmo anche essere d'accordo, bisogna capirci un po' sui termini. Probabilmente le conclusioni, quello a cui pensa Elon Musk, è per noi inaccettabile, quindi amen così. Però l'idea di una società spaziale errante non è così sbagliata. L'idea di non affezionarci troppo a un pianeta, alle sue risorse, di contare più su noi stessi e invece di accaparrarci e di litigare per le risorse, invece di permettere a qualcuno di redistribuirle in maniera errata. Vabbè, insomma, questo è un concetto che approfondiremo. Mentre Pimo, tu sei offline. Io penso, ci sono. Solo la cuffia che non funziona, il microfono sta funzionando. Vabbè, insomma, dai. Non sentirò la musica, non sentirò le citazioni, sarò tristissimo. No, adesso dopo il primo pezzo ci mettiamo in oggi i potenti mezzi a nostra disposizione ci mettono un po' a partire. È vero, vabbè, ma questo, come direbbero i professionisti, è il bello della diretta. Ed è colpa nostra, poi. Abbiamo fatto altro. Ma senti, di che cosa abbiamo parlato in queste puntate? Tu vuoi fare un riassunto? Ma abbiamo parlato di tantissime cose. In realtà è difficile riuscire a sintetizzare tutto quello che ci siamo detti in 10 puntate. Siamo partiti dai primordi, abbiamo percorso distanze sulla Terra anche lunghissime, che siamo partiti dalla Russia, siamo arrivati alla Germania nazista, poi ci siamo trasferiti nell'URSS negli Stati Uniti. Geopolitica, tanta geopolitica. Sì, Cina, siamo Europa. Venuti anche in Italia. Certo. Io adesso non ricorderò il progetto San Marco a cui... No, sto scherzando. Basta. A cui sei tanto affezionato. Sono tanto affezionato. E... Vabbè, comunque, Bimbo, diciamo, capitalismo spaziale e anche... Io in questo rispondo a un compagno che alcuni giorni fa mi diceva sì, interessante la trasmissione, ma voi criticate il capitalismo spaziale ma non date un'alternativa. Invece l'alternativa l'abbiamo data col cosmo anticapitalismo. Il cosmo anticapitalismo. E poi c'è anche da dirsi, diciamo francamente, no? L'alternativa non è proprio dietro l'angolo, non è facilissima, e il senso di questa trasmissione è proprio iniziare a parlarne, perché né io né Cobol, penso, siamo in possesso di una risposta bella e pronta. No, anzi, infatti tutte, diciamo, le correnti cosmo anticapitaliste che abbiamo citato e che anche stasera citeremo servono in realtà da punti fermi in cui poi l'ascoltatore o chi per noi l'ascoltatore può tessere una possibile tela cosmo anticapitalista, cioè si farsi un'idea di come potrebbe essere l'accesso alternativo allo spazio, l'accesso alternativo o anche il conflitto, come tra un po' sarà. E scriverlo assolutamente, quando si è fatto un'idea di questo tipo, scriverlo sul canale Telegram. Sì, anche perché così vi cedete dei bellissimi adesivi. Non sono, esatto. Non sono andati a ruba, però. No, effettivamente io mi aspettavo folle bibliche qui davanti, tipo l'assalto degli zombie, e invece non è stato. Oltre a fare scontenti noi, fate scontento anche Andromalis. Esatto, che ci è rimasto male. Tremendo. Vabbè, niente, allora di cosa parleremo invece in questa puntata? Parleremo soprattutto degli effetti del capitalismo spaziale sulla nostra vita, soprattutto concentrandoci sulla geoingegneria del pianeta. Impegnativo, molto impegnativo. Molto impegnativo da molti punti di vista, esatto. Come vedremo. Trasformazione consapevole o meno, finalistica di quello che è il sistema capitalistico, che segue imperterrito le proprie emergenze e le proprie urgenze, trasformando il pianeta a seconda delle trasformazioni interne al sistema stesso, quindi dalle sue fasi o ai suoi cicli. E questo aspetto della ricaduta quotidiana dello spazio sulla vita di tutti noi per molto tempo si è tradotta solo e quasi esclusivamente nel cosiddetto spin-off aerospaziale. Allora io ti cito, Bimo, alcune delle cose che ho trovato su internet, in realtà, quindi ce ne sono anche tantissime altre, ma insomma, qui saranno tutte false. No, queste dal sito è l'internet vera, dal questa sito dell'ESA, quindi no, perché ci sono tanti falsi miti sullo spin-off, tipo, come dicevamo qualche tempo fa, tipo il joystick che non è uno, o il Teflon, che non sono stati invece inventati per spin-off aerospaziale. Abbigliamento termico, quello che usano anche i ciclisti, quindi ecco di nuovo un link tra capitalismo cosmo anticapitalismo e ciclismo tirato per i capelli. Sensori a pixel attivi per le nostre fantastiche video videocamere nei telefoni, apparecchi acustici a lunga durata, che non so cosa si fa nello spazio che non c'è trasmissione del suono, non c'è, ma che manca il mezzo elastico. Sarà a lunga durata forse che... Il GPS, la telemedicina e poi ultimo, ma non ultimo, fertilizzanti a rilascio lento. Proprio non ho idea di che cosa. No, sì, forse per le coltivazioni. Ma io adesso, senza andare in particolari estrema, l'informatica e i computer che noi adesso usiamo hanno avuto un impulso decisivo, certo. E anche la scienza dei materiali in generale. Adesso se non è il Teflon sarà il Gore-Tex, chissà. Sì. Però, questi sono materiali, diciamo, di non particolarmente sofisticati, ma le ricadute tecnologiche sono state ed economiche sono state molto grandi. D'altronde gli Stati Uniti hanno un meccanismo per tradurre in economia, ma soprattutto per giustificare anche agli occhi dei contribuenti, che sennò immediatamente non avrebbero potuto capire questi soldi dove finivano. Sì, finivano in tasca ai soliti noti, in realtà, però in un modo particolarmente efficace, sì. Questo gli va riconosciuto. Guarda, lo spin-off è stato molto importante soprattutto fino alla fine della prima era spaziale, proprio perché comunque i soldi venivano soprattutto da tasche pubbliche. Oggi, che come abbiamo già detto, i soldi vengono anche dai privati e la ricerca dai privati è più evidente, quello che percorre è anche più esplicita, perché nella prima era spaziale non si era mai parlato di capitalismo multiplanetario spaziale, invece adesso se ne parla esplicitamente. Assolutamente. Si parla di andare a fare affari nello spazio. Ecco che allora anche la traduzione dello spin-off serve meno, diciamo la giustificazione economica dello spin-off serve meno. Io ti mando immediatamente una citazione che tu non sentirai, ma abbiamo comunque già sentito varie volte, per un po' introdurci alla questione e poi torniamo a Boca Chica Cosmodrome. A dopo. Me ne vado in giro come se fossi un bambino appena nato e vedo tutta questa bellezza per la prima volta. Voglio sapere da dove viene. È sempre stato così. No. Questo posto in realtà era davvero terribile. Guardando questo non riesco a immaginarlo. Cos'è successo? Tre cose. Automazione, biologia sintetica e estrazione spaziale. La scienza ha salvato il mondo. La biologia sintetica ha risolto tutti i nostri problemi ambientali e lo sfruttamento degli asteroidi ha generato una montagna di nuove ricchezze. E ovviamente i robot hanno iniziato a fare tutti i lavori più noiosi e monotoni. Adesso abbiamo tutto il tempo e la libertà di dedicarci alle nostre passioni, la scienza, l'arte, qualsiasi cosa ci venga in mente. Siamo passati da un mondo malato a uno magnifico, sostenibile, sicuro e pacifico. E quindi dicevamo, questa è una citazione da Bliss, un film del 21, molto molto recente, che abbiamo più volte citato qui alla radio, perché in realtà si porta dietro tutta una serie di significati che tra l'altro vedremo in parte oggi, ma in parte anche soprattutto la prossima volta, ma che sono ci sento ma che sono assolutamente in linea con quello che è il capitalismo spaziale. Te lo ricordi, Bliss? Tu non l'hai sentito in questo momento, ma no, non l'ho sentito. Strano film che vi consiglio di vedere, perché c'è dentro, come avete sentito, un sacco di temi legati al capitalismo spaziale. Allora io adesso mando un primo brano, però questo brano è un po', diciamo, fuori dalle nostre consuete sono i nostri consueti gusti. In realtà ce lo suggerisce, oddio, cos'è? Ce lo suggerisce Fabio. E ce lo suggerisce Fabio. Tierra Wack Link. Sentiamo, diciamo, la canzone, che diciamo il pezzo è un trap afrofuturistico. Urca! Che non è esattamente il nostro genere, ma il video è molto bello. Racconta di una. E noi ve lo racconteremo. Di una terraformazione fatta con i Lego. Quindi. Mica male, mica male. La musica giudicherai tu. come and build with me, oh. I think we should link, oh. You should come and build with me, oh. I think we should link, oh. You should come and build with me, oh. I think we should link, oh. You should come and build with me, oh. I think we should link, oh. Yeah. We can link, we can build, we can talk, we can chill, we can do what you like. We can link, we can build, we can talk, we can chill, we can do what you like. Yeah. Can't go to my city, queen of the block. Yeah, I can make it stack. It won't ever dry. Creating something special. Orange, green, and yellow, purple, red. Building up an empire. Taking over the entire world. So many pieces. Leave them all speechless. You can never teach this. Own to eat this. Use your imagination. Get your education. Build your foundation. Want a future, yeah. Make one. We can link, we can build, we can talk, we can chill, we can do what you like. We can link, we can build, we can talk, we can chill, we can do what you like. You should come and build. Kerouac, beh, non è un campo che a noi ci compete tanto. Grazie Fabio, no, della segnalazione. Soprattutto molto bello. Sulla musica io resto un po' interdetto, nel senso che non è un mio genere, quindi poco. Neanche il mio, veramente. Sentito. Sì, infatti, lo dicevo prima, non è. Però il video è molto molto bello, il suggerimento è molto azzeccato. Tra l'altro unisce gioco e spazio, che sono due mie passioni. Il gioco nel senso di giocattolo, no? Quindi quando il forte lancerà una televisione e Boca Chica si sposterà ovviamente sulla televisione, questo video non potrà mancare. No, assolutamente. Sarà parte della sigla. Assolutamente, perché i Lego con lo spazio ci sono tanto tanto piaciuti. Sì. Entriamo quindi nel vivo, e per farlo abbiamo la nostra sigla. Allora, Pimo, che cos'è il capitalismo spaziale? Il capitalismo spaziale è una forma di new economy, l'abbiamo detto, in fondo è la new economy. Sì, è un ciclo, ma neanche new economy. Ogni, diciamo, il capitalismo contemporaneo è costellato di new economy, no? New economy. Beh, sì, delle reti. Certo. E prima del capitalismo delle reti c'era il capitalismo elettromeccanico, poi c'è stato quello prima ancora meccanico, e ancora prima ancora quello del vapore. Esatto. Sono tutte new economy che in fondo fanno, sono fasi o cicli, a seconda un po' della lunghezza. Ha la caratteristica di essere new. E lui, no, sì, abbiamo preso a chiamarli new da poco, ma in realtà sì, diciamo che il passaggio dal vapore all'elettromeccanica probabilmente non è stata definita come new economy, ma lo è. Ma si sbagliavano, allora, perché avrebbe dovuto esserlo. Sì, sì. A noi, evidentemente, a noi contemporanei piace tanto farlo. Anche il new space, del resto, esatto, è new pure lui. Sì, anche il new space è una forma di new economy. Il newismo. E lì tu hai un po' anticipato, ma lì dovevamo arrivare fondamentalmente con un ragionamento molto più contorto, ma tu ci sei arrivato dritto. Assolutamente. Guidato dalla parola new. esatto. Beh, allora, comunque, new economy che sembrano un po' fondamentalmente orientate a quelle che sono le tecnologie che le tengono in piedi. Sì. Punto di vista. Quindi, a seconda delle tecnologie abbiamo delle new economy. Ma la new economy ha un'altra caratteristica, quella di creare il proprio ambiente. Questa è la cosa che a noi ci sta. Assolutamente. Ci interessa. Assolutamente. E, facciamo l'esempio, per esempio, della new economy delle reti, che ha creato l'ambiente virtuale. Allora, qui mi viene una domanda da farti, ma il virtuale, Mimo, il virtuale, diciamo, noi quando diciamo che la new economy delle reti ha creato il virtuale, ma il virtuale già esisteva, la new economy è il passaggio, è l'entrata, il portale per il virtuale, o il virtuale non sarebbe esistito senza la new economy delle reti? Ma il virtuale è una dimensione, io penso, neurologica, quindi che non è stata inventata da nessuno, è stato diversamente inquadrato in termini, penso, culturali e tecnologici, ovviamente. Cioè, la tecnologia di cui noi disponiamo in questo momento apre delle possibilità di utilizzare questa modalità del nostro cervello che prima non erano disponibili, in questo senso sì, però che stai dando l'oggettività, sei un neopositivista alla carna. Guarda, io non lo so che cosa sono, io così mi aggiro alla cieca e dico delle cose. Sai quella metafora, no? Se l'albero che cade nella foresta ma che non c'è nessuno a ascoltarlo, fa comunque rumore? È questa la domanda. Il virtuale, se non avessimo inventato gli accessi al virtuale, esisterebbe comunque? Questa è una domanda filosofica che dovrei girare a gente come Baudrillard. Sì, beh, ma anche molto prima, anche se vogliamo la recherche, la Madeleine è in qualche modo che evoca una virtualità, hai ragione. Esatto. Evoca una virtualità, lì è un po' diverso, la memoria esiste a prescindere che noi ci accediamo o no, perché ci accedono prima di noi, hanno acceduto prima di noi la memoria tantissime altre persone. Sul virtuale no, noi siamo la prima generazione che ci accede. In realtà la percezione di un qualcosa che non esiste è una modalità, io ripeto, penso più a una modalità con la quale noi il nostro cervello funziona. Io non penso sia stata inventata di recente. No, sicuramente no. Sì, quello il mio, sì, bravo. Sì, no, sicuramente no. Ora sento pure te. Sì, forse mi avete sentito un po' basso perché non c'erano i problemi tecnici, sono tanti oggi. Abbiamo mosso tutti i volumi per cercare di far funzionare qualsiasi cosa, diciamo, stiamo rendendo conto piano, ci scusiamo se la mia voce era bassa. Vabbè. Abbiamo spinto tutti i pulsanti anche. Vabbè, pure tu, Bimo, stai lì, però cavolo, sei pure un ingegnere. Vabbè, allora comunque. Devo fare. Allora, ogni new economy produce un proprio ambiente conforme, abbiamo detto, insomma, conforme alle proprie esigenze sostanzialmente. E da questo punto di vista potremmo addirittura dire che in qualche modo ogni new economy terraforma il assolutamente pianeta. Ed ogni new economy terraforma un po' di più della precedente. Questo è un'altra cosa su cui dovremmo ragionare, più o meno è una cosa su cui dovremmo ragionare, perché non è detto, diciamo, il passaggio per esempio dal feudalesimo alla città moderna, che è una forma di trasformazione del territorio, una terraformazione da parte sicuramente del capitalismo, diciamo quello moderno, non è che abbia inciso poco sull'ambiente, quindi io non lo so. Sicuramente, ma la prima rivoluzione industriale ha sicuramente inciso di più. Sì, trapasso perché non abbiamo il tempo di approfondirla, va bene. Allora, insomma, dagli anni 60 in poi possiamo dire che entra un po' in crisi quella che è la legge del valore, fondamentalmente, come direbbero i marxisti. La produzione di valore, diciamola meglio, forse, diciamo, lì dove la circolazione comincia ad eccedere la produzione, quindi si forma un loop, perché fenomeni come la globalizzazione, fenomeni come la saturazione dei mercati, costringe il capitale a tentare di invadere, di colonizzare qualcosa d'altro che non sia lo sferoide o blatone sul quale viviamo, ma i nostri cervelli. Quindi con la colonizzazione dei nostri cervelli inizia quindi la propaganda, il consenso, tutti i concetti che fanno parte delle economie e delle democrazie contemporanee. Poi se siamo ancora in democrazia, democrazia borghese, lo scopriremo dopo quando avremo... Hai detto ancora? Quindi vuol dire che c'eravamo prima? Sì, la mia teoria è che una democrazia borghese compiuta c'è stata, fondamentalmente. 6 mesi in Inghilterra. Una cosa del genere, sì, ci sia stata. Poi sentiamo Paolo su questo dei BPM. Ah, ok, perfetto. A cui gireremo anche questa domanda. Allora, quindi, come si colonizzano i cervelli? Avevamo detto propaganda, consenso, tecniche di obsolescenza programmata per quello che riguarda gli oggetti, sia fisica, ma anche stimolo-risposta, rinnovamento infinito dello stimolo, quindi anche una obsolescenza programmata di quella che la psicologia rivolta all'oggetto. Ecco, questi sono un po' gli elementi che poi porteranno a quel principio di crisi della legge del valore di cui parlavamo prima. Alcuni teorici in questo senso parlano di antropomorfosi del capitale, cioè ad un certo punto il superamento delle classi tra sfruttati e sfruttatori viene meno, siamo tutti figli, prodotti, siamo tutti sfruttati e agenti. Agenti in qualche modo. Non mi sembra, diciamo, che i tempi in cui viviamo gli sfruttatori io ne vedo un po' in giro. No, questo sicuramente, però tutti, diciamo, questo non era per, come dire, per assolvere qualcuno, ma per colpevolizzare tutti. diciamola così, fondamentalmente. Siamo tutti collusi col capitale, perché nessuno alla fine è più in grado di sottrarcisi in alcun modo. Quindi, per esempio, Jacques Camat parla di antropomorfosi del capitale, che è Camat interessante, critica radicale molto interessante. Quindi propagazione, posizione sul, diciamo, perché poi insomma, a un certo punto appunto propaganda, consenso, abbiamo parlato più volte, no? In questi ambiti viene fuori quello che poi è il principio cronico di rendersi conto a volte da alcune tracce che forse viviamo in un mondo diverso da come lo percepiamo, no? E questo ci viene un po' da Philip Dick, un po' di sociologia estrema, prima citavo Baudrillard ad esempio, Svastica sul sole, che non può essere compreso in questa chiave se non si rilegge sotto la chiave interessante in cui l'ha riletto Gabriele Frasca, che è un intellettuale italiano che ha scritto un po' di anni fa questo La scimmia di Dio, in cui parla dell'idea cospiratoria che sta dietro la svastica sul sole, bellissimo libro, e che in realtà è sostanzialmente una propagazione della propaganda nazista, che poi si propaga in una maniera diversa, molto più morbida, fluttuante, anche all'interno di quelle sono la civiltà della democrazia borghese post seconda guerra mondiale. Interessante, bella prospettiva. E diciamo che però in tutto ciò c'è un limite, c'è il limite della globalizzazione fisica, quindi il pianeta finisce, quindi il capitale più di tanto non si può più espandere, finiscono anche le menti, sì, si può ripristinare all'infinito lo stimolo a consumare, ma insomma in qualche modo ad un certo punto a un certo tipo di saturazione si arriva, e a quel punto quale può essere la soluzione, Bimo? Una prima soluzione può essere inventare un mondo che non c'è e cominciare a vendere pezzi di quello. Bravo, una seconda. E una seconda è rivolgersi al mondo che c'è al di fuori della nostra... Bravo, arrivare, guarda. Te l'ho servita su un piatto d'argento. Io ho cercato di fare la cosa diversa. Hai saputo coglierla? Sì, sì, è vero. Tra l'altro non mi aspettavo la prima risposta. No, beh, volevo interrompere questo lungo monologo per arrivare al punto. E d'altro canto Rosa Luxemburg aveva sbagliato previsione in questo. Aveva detto una volta che il capitale arriverà alla globalizzazione, crollerà. Non è stato così. Quindi no. Evidentemente in questo è stata, purtroppo, non solo in questo. L'ha sottovalutato. Sì, non solo in questo, ma anche nel movimento spartachista qualche cosa è andato storto. Alla fine, vabbè, comunque insomma diciamo povera Rosa Luxemburg, quindi assolutamente nulla da dire. Avevamo detto ridondanza quindi delle forme, una sorta di rivoluzione passiva come l'avrebbe chiamata Gramsci, e quindi come dice Bimo espansione necessaria nello spazio, eccoci arrivati di nuovo al capitalismo spaziale fondamentalmente. E in fondo il capitalismo spaziale in questo senso sta facendo quello che aveva prefigurato il cosmismo, di cui abbiamo parlato tanto. Il cosmismo voleva espandere le persone, espandere il proprio diciamo tra virgolette dominio umano sugli altri pianeti, per dare una collocazione a tutta la massa critica umana. Il capitale lo vuole fare non per le persone ma per i consumatori. Esatto, e non sicuramente non per gli antenati. No, sì, no, beh, certo, tutto l'aspetto. Gli antenati sono sepolti e da lì non si muovono. No, assolutamente. E quindi rigiungiamo al punto. Se ogni se ogni new economy crea il proprio ambiente a sua immagine e somiglianza, possiamo immaginare che anche quello che sta accadendo oggi, con le trasformazioni di cui adesso tra un po' arriveremo a parlare, nel nostro pianeta sia una modalità di terraformazione della nostra Terra. Io proponevo qualche tempo fa di sostituire in toto il concetto di... Tu mi dici se sei d'accordo o meno, di ecologia e di... diciamo sia di ecologia che di ambiente ma soprattutto di habitat, con il concetto di terraformazione. Cioè in realtà sono concetti mobili che possono apparire come staccati in qualche modo dai modi di produzione, invece in realtà sono esattamente le modalità in cui trasformiamo il pianeta a seconda delle esigenze e delle urgenze delle fasi del capitale. Ma sì. Quindi terraformare terra sarà un po' il tema di questa puntata. Che poi messi in questi termini viene messo proprio in discussione il concetto di terraformazione, perché così in prima battuta uno potrebbe pensare terraformazione vuol dire far diventare un... Ci arriviamo, non anticipare nulla perché voglio mandare una citazione. No, adesso poi voglio vedere se ci arriviamo veramente. Assolutamente, perché se non ci arriviamo... parti tu con questa cosa, ma voglio prima mandare la citazione del tuo grande amore, Zubrin. Eh sì, ne arriveremo prima. Arriverai a dirci, chiedo, ma forse più la prossima puntata a parlare di Zubrin. Non lo so, io sono preparato anche oggi. Va bene, allora, Zubrin. Sarà indispensabile in futuro per una colonia su Marte rendersi sempre più autosufficiente. L'abbiamo fatto ogni volta. La storia della Terra ha sempre riguardato il trasformare luoghi ostili in ambienti adatti allo sviluppo e alla propagazione della vita. Fino a quando Marte non sarà terraformato, l'agricoltura dovrà essere praticata dentro le serre. e perciò si dovrà puntare senz'altro su piante molto produttive. Questo era Zubrin. Chi è Zubrin? Zubrin è la mente della Mars Society e del Mars Underground prima della Mars Society. Ne parleremo perché è un'organizzazione interessante che ha fatto delle cose, ha fatto anche delle cose buone. E tante cose discutibili, però delle quali vale la pena discutere. Va bene, subito dopo il pezzo. La scena 8-bit, questo era Matte 64, Commodorici, uno dei pezzi 8-bit secondo me più belli mai scritti. Ma allora, Bimo, siamo già dentro la cosa. Che cos'è il terraforming? Almeno, che cos'è la definizione standard? La definizione standard è quella di tramutare un ambiente che è un ambiente ostile, un ambiente invece adatto alla vita terrestre. Beh, detto così, allora siamo perfettamente in linea con quello che dicevo prima. Ogni trasformazione, però ostile, no, perché il terraforming in realtà si usa per... Ostile è un discorso, diciamo, è il primo termine un po' scivoloso di tutta la questione. Per esempio, se tu volessi rendere abitabile un deserto terrestre, che parleresti di terraformazione? No, perché io voglio introdurre la differenza, cioè nel senso voglio che sia valorizzata la differenza che noi utilizziamo. Posso diciamo che in senso classico no, nel senso che intende anche la persona che abbiamo appena sentito, o almeno scuotevi la testa, infatti. Interventi a convegni della Mars Society. Il terraforming è un qualcosa che si avvicina anche un po' alla scenografia, se vogliamo. E quindi è molto interessante. Sì. Ma ha a che fare col falso allunaggio? No, ti è una provocazione. No, non in quel senso, non nel senso di falsità, ma nel senso della costruzione di un ambiente completamente artificiale o completamente artefatto, in cui non si tende a riprodurre la Terra, ma si tende a riprodurre la Terra buona. Ah, ok. Togliendone i lati negativi. E lì è un altro termine molto scivoloso. Molto bella questa cosa. Quindi molto ideologico. Terraforming. Ideologicissimo. Io ti volevo portare semplicemente a dire che in realtà si utilizza spesso per i pianeti alieni. Certo. Nel senso, siamo noi che parliamo di terraformare Terra, ed è una specifica nostra, perché è un senso critico in cui diciamo il capitale da sempre terraforma. E non lo diciamo solo noi, ma lo dicono, a parte che l'ha detto Zubin prima, lo abbiamo sempre fatto, esatto, quello di trasformare l'ambiente ostile. E c'è questo diciamo sottinteso positivo, cioè la terraformazione è progressiva rispetto alla situazione precedente, che è anche piuttosto discutibile, come voglio dire, arrivati al punto in cui siamo, è difficile non cogliere qualcosa che non va, no? In un discorso del genere. No, assolutamente d'accordo. Quindi valorizziamo questo primo concetto. Terraformare Terra significa effettivamente introdurre intanto in un concetto avulso e ripulito quelle che sono le componenti politiche del discorso, che vuol dire non esiste un terraforming e non esiste soprattutto un'idea di terra stabile. Quindi quando io voglio riprodurre un ambiente come quello terrestre, di quale terra sto parlando? Della terra capitalistica, della terra feudale, esatto, quindi della terra libera, schiavistica, quindi ecco, non è affatto fatto un sistema, questo come è dire, il problema, un concetto politico, poi quando lo, comunque non neutro, quindi politico, quindi quando poi lo estendiamo al nostro pianeta ci rendiamo conto che il nostro pianeta diventa un concetto molto relativo, diventa biopolitico, lo stesso nostro pianeta, come biopolitici siamo noi, qualcosa di continuamente mutabile. Ogni volta che facciamo riferimento a un ecosistema, un habitat, in realtà stiamo facendo riferimento a qualche sistema politico attuato, sì, o attuale. Sì, perché c'è la questione iniziale di in che direzione andrà il terraforming, chi lo decide e appunto in base a cosa lo decide. Tra l'altro in questo caso a deciderlo forse saranno gli imprenditori privati, quindi ancora meno rappresentativi dell'umanità. Esatto. Ammesso che insomma. La Mars Society da questo punto di vista ha prodotto una serie abbastanza consistenti di documenti che sono un pochino più sofisticati di così, come cioè la costruzione della società su un altro pianeta, nel loro caso l'altro pianeta è Marte evidentemente, visto il nome, però viene affrontata in termini un pochino più sofisticati, nel senso non è brutalmente chi ha pagato che decide cosa si fa. Assolutamente, un po' peccato che la Mars Society non conti niente. Comunque diciamo il citazione su non conta granché, questo è vero. Zubrin è una specie di borderline, diciamo. Sì, beh, è un po' il continuatore di una tradizione che noi abbiamo percorso nelle puntate precedenti, sì, no? Ne abbiamo visti parecchi di borderline. Lui è un borderline più integrato, diciamo, un borderline un pochino più integrato. Però vediamo le fasi dell'insediamento che sono molto interessanti. Bene, il nostro obiettivo a lungo termine è costruire una città autosufficiente su Marte. Prima dobbiamo assicurarci che una navicella atterri intatta, presupponendo che atterri e che funzioni correttamente. In un secondo momento possiamo inviare uomini e ulteriori attrezzature. Occorre molto equipaggiamento per consentire la sopravvivenza su Marte. In pratica l'idea è quella di realizzare più di un campo base. Quindi molte attrezzature dovranno arrivare prima ed essere assemblate da robot. Tutto ciò dovrà essere fatto a tappe. Predisporre un campo base è l'unico modo plausibile di progettare una colonia umana sul pianeta rosso. C'è bisogno di ossigeno, c'è bisogno di acqua, poi c'è bisogno di cibo, una fonte di calorie. Come si genera energia su Marte? Si utilizzano pannelli solari. Ma non si può contare solo sui pannelli solari. Pensate alle tempeste di sabbia. Si può predisporre un reattore per ottenere energia, combustibile o magari ulteriori habitat. Si possono inviare macchine per produrre l'ossigeno e macchine che risucchiano l'acqua dall'atmosfera. Sono necessarie stampanti in 3D. Così si potrà costruire ciò che serve su Marte. In seguito un equipaggio potrà stabilirsi accanto a queste strutture. Durante le prime missioni gli uomini vivranno sulla navicella, quindi sarà davvero importante assicurarsi che atterri intatta e non venga danneggiata. Ma non potranno viverci a lungo. La navicella non li proteggerà dalle radiazioni cosmiche. Chi ci proteggerà dalle radiazioni cosmiche? Chissà. Allora, Bimo, ma tutti i pianeti sono terraformabili? No, non direi proprio. Alcuni sono irrecuperabili, purtroppo. Sì, tipo i gassosi, i gioviani. Per esempio. Io vi voglio consigliare, anche se non so se la conosci, un'altra serie molto meno interessante di Mars, quella che stiamo saccheggiando, che si chiama Mondi Alieni, di cui adesso ti mando un piccolo estratto. Vediamo. Ci sono innumerevoli pianeti in tutto l'universo. Se la vita esistesse anche solo su una frazione di questi, allora l'universo sarebbe vivo. Ogni essere vivente ha le stesse necessità: nutrirsi. Riprodursi. Ed evolversi, applicando le leggi della vita sul nostro pianeta al resto dell'universo, è possibile immaginare cosa potrebbe vivere su mondi alieni. E questa era l'incipit della serie Mondi Alieni, quattro puntate miniserie. bella, interessante, un po' deludente in realtà per certi aspetti, ma in cui si immagina una serie sull'esobiologia, in cui si immaginano le forme di vita su altri pianeti a partire dalle caratteristiche fisiche di alcuni pianeti. Si vede roba seria, diciamo, pirotecnica. No, abbastanza seria, un po' deludente perché poi in realtà... Quindi ha alghe più che altro. No. Ci sono scimmiotti a sei braccia, lumaconi che si riproducono. Allora no, vedetevela, comunque... Fosforescenti. Sì, comunque okay, ci sono delle... Posto, allora va bene. Delle intuizioni ci sono, un po' deludenti perché per esempio sono quattro puntate e l'ultima puntata è sulla Terra. Cioè, <vabbè. ride> ok, grazie. Ok, sì. Comunque qui si è sviluppato il dibattito sulla Terra. Sì, ho visto. Andrea, stavo dicendo il cognome. Andrea non è... Dai, che qui ospite con noi, che spesso ci viene a trovare anche troppo, e non era d'accordo sul fatto che i pianeti gassosi... No, ma ci ho pure portato il chinotto, insomma, carinissimo. E quello che poi non ha concesso a Bimo di partire in tempo con il suo microfono, che non aveva fatto le prove perché ha tirato nella trappola del cibo del chinotto. Esatto, e del vino. Pure io, mi scuso ancora per il volume basso, speriamo che si sia sentito qualche cosa delle cose fantastiche che ho raccontato all'inizio. Allora, andiamo oltre. Terraforming, dicevamo, come definizione di ecosistema a bolla, ne abbiamo parlato la volta scorsa, no? A proposito della psicogeografia, dell'ufociclismo, quindi parlavamo di bolle atmosferiche, si può parlare di bolle anche dal punto di vista dell'atmosfera vera e propria, quindi respirare. Abile, vivibile, un habitat dentro una bolla. E consigliavamo Under the Dome, almeno la prima stagione, per la serie Under the Dome, per rendersi un po' conto di quello che significa vivere dentro una bolla. E noi il concetto di ecosistema che vogliamo abbandonare in favore di quello di terraforming, perché è più politico e perché è più adatto a spiegare l'intervento massiccio del capitale su forza lavoro, quindi su esseri umani e sull'ambiente stesso, poi sono inscindibili, noi abbiamo scinsi in queste due puntate, questa di oggi e la prossima, però in realtà si tratta ovviamente della stessa cosa. In realtà noi lì in qualche modo li mutuiamo, e quindi questo invito tutti a non sentirsi delusi del fatto che li vogliamo abbandonare, perché tanto li mutuiamo in chiave moderna dalle scienze sommergibilistiche e dalle scienze aerospaziali, e quindi questo, e quindi addio biosfera, addio ecosistema. Li mutuiamo tanto da questi tipi di sistemi militari e di istituzioni totali, da arrivare negli anni 80 a Biosfera 2, l'esperimento, te lo ricordi? Sì, ma diciamo che gli esperimenti del genere poi ne sono stati fatti tanti. Lo vuoi raccontare? No, perché non sono così. Beh, praticamente è una terraformazione fatta sulla Terra, un ambiente chiuso, assolutamente non permeabile all'esterno, in cui si voleva far ricrescere, far maturare un ambiente incontaminato dall'esterno, quindi una vegetazione che non aveva contatti con l'esterno, ma che ricreava un proprio microclima, un proprio microambiente. E ti dirò questa informazione incredibile: sai chi era il direttore di Sfera 2? Ne abbiamo parlato nelle puntate. Stephen Bannon. Ah, sì, esatto. Quindi, alt-right americana, esatto, guarda caso, esatto. Alt-right americana, accelerazionista. L'avevamo accennato. Parliamo sempre delle stesse cose. Sì, ci ripetiamo. No, tornano. No, inevitabilmente. Certo. Oggi parlare di questo ha completamente un altro senso rispetto alla volta precedente. Certo. No, quindi abbandoniamo questi concetti anche perché manipolati da gente come Stephen Bannon, che appunto negli anni 80 già si occupava di Biosfera 2 e che in qualche modo poi dai là, o comunque fornisce l'anello mancante tra la politica americana contemporanea, soprattutto quella trumpiana, e tutte le correnti neofilosofiche dell'alt-right, dall'accelerazionismo al singolarismo, che insomma un po' inquietanti e che comunque sono in questo momento preponderanti. Ma Biosfera è un progetto i cui rimasugli sono diventati una specie di attrazione turistica. Guarda, Biosfera è stato un casino, perché poi a un certo punto coloro che lo gestivano, pur di non farlo fallire, cominciavano a introdurre aria hanno imbrogliato. Quando sono scoperti è un disastro, praticamente è stato un vero disastro, però è stato un tentativo serio di ricreare, proprio pensato per generare, come dire, forme, insediamenti terrestri su pianeti alieni, quindi insomma oppure ecosistemi chiusi all'interno del pianeta Terra, ma ci arriveremo, insomma, facciamo bolle. E arriverà fuori la Mars Society che ha diversi, non uno, ma diversi. Biosfera 2 in fondo può essere vista anche come la miniatura, come la miniatura di quello che sta socialmente accadendo, cioè quello che dicevamo anche l'altra volta, quello di ridurre sempre di più il nostro spazio di azione all'interno del sistema vitale, no? Del nostro sistema vitale, che prima è un sistema vitale generale, collettivo, che è l'ambiente, ma poi man mano, per esempio come si è visto nella gestione Covid, diventa sempre di più un sistema ristretto, un sistema limitato alle singole persone, un sistema che ci esclude sempre di più la socialità e ci fa vivere sempre più dentro la nostra bolla. Sempre di bolle parliamo. Sì. E quindi, grande prototipo Biosfera 2. In realtà il più grande prototipo viene un po' di anni prima ed è sovietico, ma quello era fatto meglio, secondo me. E non è fallito. Non ne sappiamo niente, non avendone saputo nulla, non è fallito, assolutamente, io direi così. Questo, il nostro sovietismo ogni volta viene in qualche modo riproposto. Vabbè. E bolla è stato il feudalesimo prima del capitalismo, bolla è stato la società schiavistica prima del feudalesimo, con tutte bolle dentro bolle. E non a caso, insomma, l'altro giorno quando parlavamo di psicogeografia, la puntata scorsa, che vi invito ad andare a sentire se non capite di cosa parliamo, in realtà parlavamo anche lì di bolle atmosferiche come ambienti atmosferici, ambienti politici che si contrappongono, no? Come gruppi sociali pertinenti che si contrappongono l'uno all'altro. In fondo il feudalesimo viene scalzato dal capitalismo come bolla che sostituisce un'altra bolla. La bolla vincente è Terraforma. Bravo, sì, direi che ogni terraformazione è una battaglia vinta tra sistemi di tra modi di produzione. Sì, il gruppo pertinente allargato sicuramente. L'abbiamo detto prima, quindi è un modo di intendere il pianeta in maniera biopolitica, dinamica. Il pianeta non è nulla se non, ed è, poi ritorniamo alla questione di prima, l'albero che cade nella foresta, se non c'è nessuno a ascoltarlo fa rumore, la questione è sempre la stessa, se non ci fossero i modi di produzione esisterebbe il mondo? E questa, la domanda è sempre quella fondamentalmente, no? Perché noi viviamo nell'ambiente. La risposta che mi è sì. Beh, noi l'ambiente lo definiamo in base a come lo trasformiamo e a come produciamo risorse e come estraiamo risorse fondamentalmente. Sì, diciamo. Siamo una specie che deve adattare l'ambiente necessariamente per vivere. Non esiste un ambiente che per noi è già bello, fatto, predisposto. Questo invito Cobolo, ma comunque tutti, a andarsi a vedere finché c'è e chi è a Roma, la mostra di Sebastiano Salgado al Maxi, e ci sono la parte, diciamo, puramente naturalistica è molto scenografica, bella, però meno intensa. La parte invece in cui si fotografano gli abitanti delle foreste amazzoniche mette, secondo me, un po' in discussione quello che tu hai appena detto. Anche lì è un modo di produzione, il loro modo di produzione, essi vivono nudi. Modo di produzione neolitico. Ma non hanno modificato. Loro sono perfettamente parte dell'ambiente in cui vivono, non hanno modificato nulla. Va bene, su questo. È questa la cosa. O hanno modificato molto poco. Certo, sì. Beh, sono, diciamo, più compatibili. Qualsiasi animale modifica in una certa misura l'ambiente in cui vive. Quindi è impossibile nessun impatto. L'evoluzione delle forme. Ma quello non sarebbe neanche richiesto. Diciamo, l'evoluzione delle forme di terraformazione, in questo forse è quello che dicevi tu, si distanziano sempre di più l'uomo dall'ambiente. Ambiente. Sì, c'è un'escalation. E questo è interessante perché in realtà noi lì dobbiamo andare a parare, ovvero al fatto che in realtà questa ultima terraformazione, la terraformazione del New Space, in qualche modo ci allontanerà dal pianeta Terra. Eh sì. Almeno psicologicamente, ne avevamo già parlato a proposito di Hannah Arendt quando parla di acosmismo, di quella sensazione di vivere già al di fuori, lei lo diceva in altri termini, ma già di vivere al di fuori del pianeta Terra, di guardarlo, grazie alla tecnologia, di guardarlo dal di fuori e quindi di poterlo dominare in una maniera, diciamo, non interna, fondamentalmente, non immanente, non mi veniva, ecco. Quindi, diciamo, vivere al di fuori dell'immanenza grazie allo sviluppo tecnologico, e forse questo è un primo risultato. E vabbè, insomma, io adesso vado con un altro brano, sono italiani questi, da dietro, lo sentiamo e poi torniamo in studio perché abbiamo tante cose da dirci e stiamo andando a una velocità mostruosa, ma no, anzi, mi sto sbagliando. Vedi, no, c'è un'altra citazione prima, la mando e poi ne parliamo. Marte e la Terra sono pianeti gemelli. Marte in principio aveva fiumi e laghi, addirittura un oceano. Se c'era acqua su Marte, Può esserci stata anche la vita? Può essere abitabile? Se vogliamo una risposta, noi dobbiamo assolutamente andare su Marte. Dobbiamo andare su Marte per salvarci dall'estinzione. Sono molti gli eventi che potrebbero uccidere il genere umano sulla Terra. Ma vivere su due pianeti diversi fa scendere le probabilità di estinzione praticamente a zero. Andare su Marte è rischioso, pericoloso, faticoso. Ma sarebbe la più grande avventura di sempre nella storia dell'umanità. Tutte definizioni in uso. Pericoloso, ambizioso. Formattoso. Allora, dicevamo, queste sono un po' le ragioni scientifiche per andare su Marte, ma in realtà noi ne abbiamo sollevata almeno un'altra, che è quella del grande business del supporto vitale. Assolutamente. Sei sempre più convinto di questa, sì, di questa cosa. Beh, diciamo, la dimensione economica che Zubrin in questo momento era lui, no? Sì, in parte. Solo in parte, diciamo, erano tanti. Non ha evidenziato, diciamo, ecco, no. Vediamola così, è comunque gioca un ruolo fondamentale. Il grande business dell'espansione nello spazio per vendere supporto vitale. Supporto vitale, come dicevamo prima, nel concetto ecologico rimane un qualche cosa in parte a disposizione di tutti, in comune di tutti, con tutti, ma che nello spazio diventa sempre più personalizzato. Eh sì. Perché diventa una tuta, diventa una fornitura di acqua, di ossigeno, una fornitura di cibo, perché il logo non si può produrre. Quindi il grande business del supporto vitale. O della terraformazione, a quel punto, che diventa un grande business anche lei, tutto sommato. Sì. Però le prime fasi di insediamento, certo, sono sicuramente quella della vendita del supporto vitale. È quello che dicevamo in delle puntate precedenti, no? Una delle questioni tutto sommato aperte in questo momento è quale sarà l'economia dello spazio, no? Le possibilità sono tante, ognuna ha dei lati, diciamo, plausibili e dei lati meno. E questa di sviluppare un mercato del supporto vitale è sicuramente una possibilità. Beh sì, il grande affare del supporto vitale, perché appunto tu mi guardi con un po' con disapprovazione quando lo dico, però secondo me nella gestione politica del Covid oggi questo l'abbiamo già visto, cioè no, nel senso, tutto ti viene consegnato a casa, l'intrattenimento è tutto singolarizzato e personalizzato, e soprattutto l'esterno è alieno, noi viviamo dentro la nostra scatola, dentro il nostro supporto vitale in cui tutto ci è fornito, e quindi sì, stiamo vivendo una grande prova generale. Sì, questo è ovviamente è una tendenza che non è nata con il Covid, no, ma che è rafforzata. È rafforzata sicuramente, è un'occasione che è stata colta, se vogliamo. Oh, beh, sicuramente diciamo, l'economia coglie occasioni, e sì, questa era per alcune attività economiche, era indubbiamente un'occasione che è stata colta. Ma tu quindi questa metafora del Covid come trasposizione a livello generale del Mars Society me la passi? Per alcuni versi sì, per alcuni versi sì, ma soprattutto anche perché secondo me, oltre al terraforming, c'è un'altra tendenza che è anche lei, ci spinge ad allontanarci dagli abitanti nudi dell'Amazzonia di cui parlavamo prima, e però ci spinge verso mondi non spaziali, ma nei mondi della new economy, non della new economy, dei mondi virtuali. Beh, ma le new economy non si escludono a vicenda. Ah, no, assolutamente. Ogni new economy si fonda su new economy passata. Eh sì, poi tra l'altro lo dicevamo, i più grandi imprenditori spaziali vengono dalle new economy, esatto, delle piattaforme. Ma poi se ci vogliamo pensare, per esempio, il grande tema che affascina la grande industria informatica americana negli ultimi mesi, che è il metaverso. Il metaverso funziona perfettamente anche se siamo su Marte. Assolutamente. Laddove invece la caccia con la cerbottana, no. Da vedere, perché magari come facevano le riserve inglesi per la caccia alla volpe, magari gli animali ce li metteremo per poterli cacciare, visto che siamo così sadici. La terraformazione non potrà prescindere da un po' di caccia. Che disastro, che disastro. E adesso i da dietro, allora. Look at now. Questa volta siamo un po' brevi con la musica perché abbiamo tanta roba da dirvi. Abbiamo tantissimo. Troppo, una scaletta mostruosa. Comunque, da dietro a Shocking Now, un bel brano, gruppo italiano molto techno exotic, electro exotic. Forse riusciremo a parlare poco di Cosmo Anticapitalismo, quindi lasciamo sicuramente che a farlo sia Andromalis con la sua sigletta. Black 2, Barada, Nikto. Klaatu, Barada Nikto. Oggi voglio parlarvi di Nectar, una breve ma preziosissima storia a fumetti uscita nel 2017 per la piccola casa editrice Sciame. Il racconto e i disegni sono di Davide Bart Salvemini, uno dei migliori e più apprezzati disegnatori del nuovo fumetto italiano. I disegni sono davvero fantastici, quasi che l'esperienza sperimentale del gruppo Valvoline, la seconda generazione di fumettisti italiani che travolse il fumetto europeo negli anni Ottanta, incrociasse la straordinaria rivoluzione neopsicadelica di questi ultimi anni innestata dal canadese Jesse Jacobs. Ma seppur giovane, o proprio perché ancora giovane, Salvemini ha una spinta artistica che lo fa splendere di una sua precipua luce. C'è in Nectar una ricerca cromatica estraniante e nello stesso tempo inebriante, comunque sia alterante, con verdi in bilico sui blu e rosa saturi e gialli abbaglianti che surriscaldano questo processo di cromosintesi. Ed effettivamente il corriere spaziale che, impegnato in una consegna e per misteriose cause, naufraga su di un misterioso e rigogliosissimo pianeta paradisiaco, subirà un allucinato, ma quasi orgasmico, processo di osmosi con una sorta di anima biologica del pianeta. Liberato, il corriere sarà il veicolo spaziale, una specie di astronave biologica di batteri, funghi, virus, proteine e pollini del misterioso pianeta alla conquista del cosmo. Insieme a Safari Honeymoon del già citato Jacobs e in termini molto diversi Grow di Bambi Kramer, Nectar di Salvemini esplora la via narrativa di un fumetto mutante ed antispecista, che probabilmente sarà una delle vie possibili verso la speranza di poter dire ancora qualcosa riguardo al futuro. E tra l'altro chi ci segue sa anche chi è Jacobs, perché in realtà ne abbiamo parlato la volta scorsa o due volte fa, Jesse Jacobs, sempre di tra i fumetti Cosmo Anticapitalisti. Mi stai guardando come se non capissi. La mia memoria a questo punto neanche lungo termine, stiamo vabbè, parlando di medio termine, va affivolendosi. Guarda, dopo c'è una citazione musicale che ti ho regalato, speriamo di arrivarci. Andromalis, grazie per come al solito. E grazie anche lui in realtà non ha fatto l'adesivo, ma per il disegno dell'adesivo, assolutamente, che potete sempre vincere se vi iscrivete al nostro canale. Esatto. Ve lo ricordo. Ma poi dovete venirvelo a prendere. E Andromalis, seguitevi tra l'altro, come dico spesso, il suo progetto in questo momento radiofonico, lui e i suoi cospiratori, che è Planet Mongo. Andromalis, sempre Andromalis, non c'è tanto da dire, ne abbiamo tanto parlato, quindi seguitelo e cercatelo. Insomma, Boca Chica Cosmodrome, stiamo parlando di New Space Economy, siamo arrivati a una piccola conclusione, ovvero che ci troviamo in questo momento in una new economy, che è una new economy che guarda alle risorse collocate nello spazio, e che ogni new economy procede a un processo di terraformazione del pianeta, cioè lo trasforma secondo quelle che sono le sue esigenze dal punto di vista produttivo, modificando radicalmente l'ambiente, ma poi la prossima puntata vedremo anche la forza lavoro. Questa new economy è la prima new economy che si propone di non modificare soltanto la Terra, ma anche altri pianeti. Questo lo vedremo. Io su questo. Questo è vero, questo è assolutamente vero. Scusami, avevo frainteso. Sì, hai assolutamente ragione. Il processo di trasformazione dei pianeti alieni è parte delle sue urgenze. Sì, sì, certo. Non è certo. Un fatto nuovo. Questo, entriamo un po' nel vivo. Allora, quali saranno le prossime trasformazioni? Quindi, diciamo, se questo sistema di produzione, anzi, diciamo, questa fase del sistema di produzione sta cambiando il nostro pianeta, come lo sta già cambiando? Perché poi è questo. Molte volte alcuni compagni o anche chi ci ascolta, che magari anche ha posizioni diverse dalla nostra, dice: vabbè, ma voi state parlando di fantascienza o di fantapolitica. Se è vero che alcuni processi come la terraformazione, non gli insediamenti ma la terraformazione, saranno sicuramente un po' lontani nel tempo, è vero che noi il sistema di questo, diciamo, questa fase di questo modo di produzione sarà sicuramente un po' lunga perché tecnologicamente è molto complessa. La volta scorsa abbiamo parlato dei vettori, della riutilizzabilità dei vettori, che è una delle svolte tecnologiche che accelereranno, no? Ma che comunque è recente. E poi non è sufficiente. Non è ancora sufficiente, no? Anche è le tecnologie... un passo necessario, ma non sufficiente. Sì, sì, le tecnologie di terraformazione siamo un po' indietro. Beh, insomma, ci arriveremo in una fase matura di questo modo di produzione, ma probabilmente i suoi primordi saranno molto lunghi e noi già cominciamo a vivere i suoi effetti. Allora io ti propongo questa cosa qui, ti dico, tu conosci benissimo il tutto il dibattito sull'antropocene, il cosiddetto antropocene. Sì. L'antropocene è questa epoca, vuoi dirlo tu? No, dillo tu. Allora, l'antropocene è intesa come epoca storica o come anche epoca umana in cui i mutamenti terrestri cominciano ad essere prodotti dall'attività antropica, quindi non solo più dai vulcani, dai ghiacciai o dalle grandi eruzioni o dai grandi terremoti, ma è anche l'essere umano che produce mutamenti visibili nel pianeta Terra. Ora, secondo me è una definizione ed è un concetto assolutamente vuoto quello di antropocene, perché insomma abbiamo già detto, l'uomo da sempre, gli esseri umani da sempre trasformano l'ambiente, qualsiasi animale trasforma l'ambiente, l'essere umano lo fa in maniera un po' più radicale, ma sicuramente lo fa da sempre. E infatti tutti i teorici dell'antropocene si trovano molto imbarazzati nel definire l'inizio, la fine, diciamo l'inizio di questo antropocene, chi lo riporta alla prima rivoluzione industriale, chi lo porta addirittura all'attività neolitica, ma allora così diciamo l'invenzione del fuoco, esatto, in questa regressione infinita alla appunto scoperta del fuoco, perché dell'invenzione, sì, perché è un po' ambizioso, sarà un chimico del passato, esatto. Alchimista. No, in questa regressione infinita di questo concetto dell'antropocene poi alla fine ce lo perdiamo. Tant'è che alcuni altri critici hanno proposto di parlare di capitalocene, no? Quindi diciamo il periodo in cui il capitale è così intenso, l'attività è così intensa. Ma allora chiamiamolo semplicemente capitale e buttiamo questo concetto di antropocene che non serve a niente. Sì, sì. E il capitale ha come dicevi tu, ha un'incisività anche diversa, anche perché probabilmente ogni terraformazione ha un impatto diverso e più forte sul pianeta. Però di questo concetto di antropocene, quello che a noi ci può interessare sono i cosiddetti marcatori che nell'antropocene, diciamo, del concetto antropocene sono stati tirati fuori, che noi possiamo usare per descrivere, questa è la mia proposta che faccio a te, quelli che sono i primi passi del capitalismo spaziale, cioè usare i marcatori, quindi usati per l'antropocene, che è un concetto che non serve a niente, è come dire che chi ha parliamo di uno strumento ma rifiutiamo tutto l'armamentario che gli è un po' come a dire l'analisi era giusta ma le conclusioni degli antropocenisti siano sbagliate, cioè non è semplicemente la descrizione dell'attività antropica ma è la descrizione di una fase di questo modo di produzione specifico, ovvero del capitalismo spaziale. Partirei da questo e quindi partirei da una citazione ahimè un po' lunga ma purtroppo non l'ho accelerata. Andiamo. Ormai dovremmo essere in prossimità del polo. Voglio darci uno sguardo. Però da un'occhiata. Adesso comincio a capire la ragione delle preoccupazioni del generale. L'innaturale variazione del clima. Non avevo mai visto un fenomeno simile su quel ghiacciaio. Guarda, capo, sembra che l'Artico voglia disintegrarsi. Dai nostri calcoli risulta che lo sciogliersi delle calotte polari non è dovuto a un mutamento dell'orbita terrestre né a uno spostamento del suo asse. L'aumento della temperatura artica è invece causato da un campo di alta energia protonica che sta creando condizioni addirittura assurde. Mediante un complesso di analisi abbiamo potuto individuare il luogo di origine di questa energia. È un'area ai confini tra la Cina e l'India sull'Himalaya. Secondo un rapporto di una pattuglia di osservazione del ghiaccio, la temperatura dell'Atlantico è aumentata di 20 gradi. Le masse vaganti di ghiaccio polare minacciano la navigazione. L'aumento del livello dell'acqua nel mare del nord ha causato l'allagamento di altre aree dei paesi. Basta così, spegnete. Una catastrofe, non vi pare? Sì, un totale mutamento climatico delle regioni polari ed alpine. Se continua così dovremmo fronteggiare inondazioni su tutto il globo. Siete voi che fate fondere le calotte polari. Ma allora perché inviate calore ai poli invece di raffreddare la Terra? Perché per prima cosa volevamo inondare la maggior parte della Terra e soltanto dopo abbassare la temperatura in modo da congelare l'acqua e ricoprire la Terra di una spessa coltre di ghiaccio. Siete arrivati nel momento più opportuno. Secondo i nostri indicatori è giunto il momento che io inverta la temperatura e la Terra comincia a gelare. signori, voi... Vabbè, basta, cioè, allora, la citazione... La citazione era lunghissima, l'abbiamo interrotta. Bimo, ti è piaciuta? Molto perché bella. Adesso ti dico la data di questa cosa, che è molto sorprendente. 67. Eh sì, e beh, un anno pieno di eventi significativi. Sì, molto, molto, molto interessante, sì. Questo era La morte viene dal pianeta Aiden, e tra l'altro qui Andrea, che stava qui con noi, l'ha indovinato, quindi si è appena aggiudicato un bellissimo adesivo di Boca Chica Cosmodrome. E beh, insomma, anticipa di un po' di anni con tutta la polemica, diciamo, con tutta la cosa sul, come dire, sui cambiamenti climatici. Sì. E poi qui c'è la haitinizzazione della Terra, non so come, è qualcun altro che sta ha preso in mano la situazione. Sì, in questo caso sono degli alieni, poi alla fine amen. Insomma, di Margheriti ne abbiamo parlato tanto, l'abbiamo citato spesso. Ti voglio dire, mi ero preparato questa cosa di fare velocissima per dire: Morte del pianeta Aiden 67 anticipa tutta la questione sull'antropocene. L'altro film che abbiamo citato qualche giorno fa a proposito della Cina, 2+5, Missione Hydra 66, in cui si vedono delle scimmie aliene che attaccano i cinesi. Siamo nel 66, quando le scimmie di 2001 del dello spazio arrivano nel 68. Non è finita. Anno zero, guerra dallo spazio del 77, lo citiamo spesso, che ti ricordi, ne abbiamo parlato a proposito della Eco Computer Machine. Sì. Qualche puntata fa, andatevi a sentire qualche un film di aiutami Andrea, un film di non mi ricordo, Bradley, vabbè, insomma, anche lui è un regista italiano che però in realtà si firma come Al Bradley, Alfonso Brescia, che c'avevo pure scritto scemo, vabbè, comunque incontri ravvicinati e anticipa di tantissimo incontri ravvicinati del terzo tipo, che è del 70, che arriva in Italia nel 78, però è del 77 come lo stesso film, quindi anche qui un anticipo. E poi Terrore nello spazio di Mario Bava, bellissimo, 65, qui non c'è bisogno di fare cospirazionismo o retropensieri, perché Ridley Scott l'ha ammesso, che il suo Alien del 79 si ispira a Mario Bava, Terrore nello spazio. Tutti i film da andarvi a vedere, quindi, perché sono fondamentali. Marcatori dell'antropocene. Se mi permetti, io ti faccio una breve lista, poi ne parliamo di quelli che sono i marcatori. Allora, li prendo proprio da scritti e da concetti dell'antropocene. Picco, allora, incremento di isotopi radioattivi di cesio 137, plutonio 239 e 240. Quest'ultimo, tra l'altro, denominato plutonio da reattore, quindi proprio non può essere decadimento naturale. Picchi di radioisotopo carbonio 14 legati ai test nucleari del dopoguerra, rinvenuti nel famoso peccio di Stitka, che è appunto un peccio che vive sull'isola di Kamper, particolarmente isolata, che se è arrivato lì significa che ha permeato tutto il pianeta. In generale, segnali che evidenziano l'alterazione dei suoli causate soprattutto da rifiuti plastici, microplastiche e plastici, residui di combustibili fossili praticamente ovunque, residui di infrastrutture e di sostanze prodotte dall'azione umana, definitivamente inglobata alle forme dell'ambiente terrestre. Io qualche anno fa, sotto il marciapiede rovente di un'estate agostana di dove abitavo, perché adesso sono stato cacciato da casa mia, che stavo a Tor Tre Teste, e ho trovato una dentiera fusa con il con il bitume, bitume. Ho pensato, l'antropocene. L'ho anche fotografata, ce l'ho, magari se la ritrovo la posto sul nostro canale, perché era molto divertente, insomma. Quindi ne potremmo fare delle t-shirt. Esatto, questi denti inglobati al terreno. Tendenziale scomparsa delle foreste tropicali con relativa riduzione della biodiversità in esse contenuta. Occupazione antropica di circa il 50% delle terre emerse. Sovrasfruttamento delle acque dolci e delle risorse ittiche in genere. L'uso di azoto fertilizzante agricolo in quantità molto superiori a quelli naturalmente fissati dagli ecosistemi terrestri. Sovrasfruttamento delle risorse minerarie, tendenziale perdita di integrità degli ecosistemi, velocizzazione e aumento dei traffici, circolazione di persone e di beni, e l'abbiamo visto anche col Covid. Un marcatore per l'antropocene, allora, un marcatore, e questi sono, diciamo, quelli che fondamentalmente sono considerati i marcatori, quelli più tradizionali. Tu sei d'accordo su tutto ciò? Beh, sicuramente. Ti faccio quest'altra domanda: cosa, diciamo, ci intravedi qualcosa di capitalismo spaziale? No, sì, devi dire sì, però devo dire di sì. Sì, sì. Allora sì. No, parliamone, cioè, nel senso è il punto. Dimmi perché sì e poi ne parliamo, dai. Ma no, allora, fondamentalmente, ma te lo dico alla fine, però ci dobbiamo arrivare un po' più progressivamente. Io volevo sentire la tua risposta, ci arriviamo un pochino progressivamente. Io in tutto ciò ci aggiungerei come marcatore una cosa che gli antropocenisti non mettono mai in considerazione, ma che è il tendenziale svuotamento delle città. Eh beh, sì. Perché? Velocemente detto, la città moderna è la terraformazione del modo di produzione capitalistico contemporaneo, ovvero dalla seconda rivoluzione industriale, anzi già dalla prima. Svuotamento delle campagne, conglomerati urbani che diventano sempre più grossi per fare cosa? Per avvicinare la maggior parte della forza lavoro alle fabbriche, che sono il centro produttivo, il cuore pulsante del modo di produzione capitalistico dal primo al secondo fino agli anni 80, fino a quando appunto in qualche modo si è cominciato a parlare di era post-industriale, diciamo anni 60, in realtà anni 70. Quindi tendenziale svuotamento perché? Perché questa terraformazione viene gradualmente abbandonata. Cioè la terraformazione del sistema precedente, della new economy precedente, viene in qualche modo abbandonata, e quindi non interessa più che le città siano piene di forza lavoro, di proletariato, ma diventano delle cattedrali nel deserto, usate più in maniera simbolica, come per esempio il centro di Roma, che si è svuotato dalle persone che lo abitano, che vengono sempre più marginalizzate, sempre più poste fuori verso le periferie o addirittura anche più fuori, perché non sono più così necessarie alla centralità della fabbrica della città. Sì, diciamo che questa tendenza rispetto a, penso, alla terra nel suo complesso è abbastanza circoscritta, perché ci sono zone della terra dove invece la spinta all'urbanizzazione è gigantesca. La Cina, per dirne una, la Cina sta vivendo un'esplosione delle città inaudita. Ci sono zone del mondo dove ci sono delle megalopoli gigantesche che non sembrano essere interessate da fenomeni. Però la Cina in questo momento è interessata da un cosiddetto salto di fase. Sì, certo. No, quello che Lenin chiamava salto di fase, per quello che ha riguardato la rivoluzione russa, che in qualche modo doveva giustificare marxianamente, pur avendo perduto, pur non avendo ingaggiato mai quella fase di capitalismo maturo che invece Marx ed Engels prevedono nel manifesto del Partito Comunista, nell'analisi sostanzialmente. Beh, non lo so, io questo non arrivo ad essere così sofisticato nell'analisi, però diciamo che registro il fatto che la perdita di significato delle città diciamo si manifesta in alcuni in alcune parti del mondo, in alcune situazioni non ampiamente, in altre, ampiamente industrializzate. Infatti, sì. Certo. Infatti diciamo, parlavo appunto di salto di fase, nel senso che lì comunque si vivono in qualche modo in maniera un po' alterata quelle che sono le trasformazioni dovute ancora al capitalismo che noi in qualche modo già stiamo superando, e lo vivono in contemporanea a un capitalismo che già arriva, perché la Cina, l'abbiamo parlato l'altra volta, è già in competizione con gli Stati Uniti sia per lo spazio che per i mari. Però nel frattempo si sta vivendo anche una fase di iperindustrializzazione che l'Europa si è vissuta, o anche gli Stati Uniti sono vissute in altre epoche. Per cui hai ragione, assolutamente, lì la città forse ha un senso molto diverso dalla città europea, che invece sta perdendo sempre più senso e significato. La città europea sta indubbiamente perdendo significato. E quali sono all'interno di questo marcatore che noi vogliamo introdurre degli attributi specifici? Per esempio, zone rosse. Ampliamento totale delle zone rosse. Un tempo le zone rosse maculate erano in qualche modo cose rare all'interno della città. Oggi col Covid la zona rossa si è generalizzata, e all'interno del Covid, all'interno della zona rossa, esistono delle piccole isole verdi che sono i Green Pass. Quindi fondamentalmente si tratta in realtà di una generalizzazione della zona rossa, che un tempo erano modi per allontanare da alcuni spazi specifici parte della popolazione, legata ad esempio anche alla politica del DASPO. DASPO, che un tempo era utilizzato solo in alcuni casi, ma che adesso viene sempre più generalizzato, quindi allontanamento forzato di persone. Una cosa ancora più raffinata, l'architettura ostile, tra cui abbiamo fatto tra l'altro il post perché per noi il posto è proprio per presentare questa puntata, perché per noi adesso ne andremo un po' veloce, ma ne abbiamo parlato anche la volta scorsa, quindi sì, modi per non far stazionare le persone all'interno della città, per renderla sempre più sia persone che animali, per allontanarli dai centri diciamo di percorrimento dei percorsi delle merci fondamentalmente, sì, ma anche proprio per, come dire, per svuotare quelle parti della città che è più interessante che rimangano vuote e che rimangano percorribili da altri processi che non sono quelli del vivente soprattutto, e tutte cose che si vanno a raggruppare sotto il concetto di decoro, poi fondamentalmente, quindi il decoro come grande attributo dell'antropocene diciamo post-terrestre, e quindi il decoro come in qualche modo segno visibile della spinta verso gli astri. Ma io direi di sì, la degravitazione dalla città, secondo me, è una miniatura di quella che sarà la degravitazione verso gli astri, fondamentalmente. Per quello che dicevo, in qualche modo lo svuotamento della città è un primordio simbolico, ma non solo, a quella che sarà la degravitazione dei consumatori nello spazio, l'ampliamento, l'espansione del consumatore nelle dimensioni extraatmosferiche. Si parlava di costruzione di città su Marte. Quello che ne parlava era doppiato, non riconosciamo la voce perché era uno dei tanti doppiatori di Elon Musk, tra l'altro, quindi era proprio Elon Musk che ne parlava. Elon Musk è rimasto in qualche modo sentimentalmente legato alla città. Sì, hai ragione, è vero, non ci avevo riflettuto. Beh, lì si dovrà ricostruire un processo produttivo, diciamo, passeremo velocemente dallo schiavismo dei primi operai specializzati. Beh, lo stesso Elon Musk, non so se ne parlavamo la volta precedente, ma la soluzione di Elon Musk ai costi piuttosto elevati che chi vorrà andare su Marte dovrà sostenere, era dei prestiti che poi vanno restituiti su Marte, e lascio a voi pensare cosa succede. Beh, ci sono parallelismi con quanto già avviene nell'immigrazione, esatto. Ma è già avvenuto anche nell'immigrazione verso le Americhe, certo. Questo tipo di schiavitù temporanea per ripagare un debito era abbastanza diffuso. Assolutamente. Su questo abbiamo una bella citazione, che non è una citazione citata, ma in realtà ne parliamo solo perché in chat, proprio sulla nostra chat, questa settimana è emerso quello che suggeriva Alessandra, un film che è 2022, I Sopravvissuti, che è del 73, in cui si vedono queste bellissime scene di camion della Nettezza Urbana che caricano i manifestanti, li buttano dietro nello schiacciatoio e ovviamente dietro escono hamburger. Beh, cibo. Sì, perché il film è quello, I Sopravvissuti. Silent Green, no? Esatto. Non voglio fare spoiler, però fondamentalmente è quello. Quindi il decoro visto come questa interazione, questa sinergia tra pulizia e polizia, fondamentalmente, cui camion della Nettezza Urbana fanno proprio da poliziotti, fondamentalmente da camion frangi folle e da spartiacque, anche da dissuasori, fondamentalmente. Sì. È molto molto bello, un film assolutamente da vedere, perché è molto politico da questo punto di vista. Poi tu hai un po' raccontato la fine, ma insomma la fine è la cosa meno interessante, secondo me, è proprio tutta la dinamica con Charlton Heston, se non sbaglio. Sì. Charlton Heston fantastico, super specializzato in film catastrofisti. Eh beh, sì, all'epoca assolutamente ne fece una certa quantità. Che bella quell'epoca, cioè, nel senso, quegli anni lì, devo dire, quegli anni della catastrofe, quella pellicola, quella bellissima, diciamo, proprio quel gusto per la pellicola americana degli anni 70, catastrofista. Io proprio quei film, peccato, me li sono visti tutti, perché, cioè, invidio voi che non li avete visti, che potete vederli, che li approccerete, li vedrete. Quindi grazie Alessandra che l'ha introdotto. E ti faccio sentire un'altra citazione interessante, però una piccola storiella. Siamo tanti, le nostre risorse sono limitate e quindi un evento catastrofico come questo ci danneggia molto. E poi l'altro aspetto è che siamo al centro di un esperimento planetario, chiamiamolo così, un esperimento di cambiamento del clima, del quale non sappiamo ancora quali saranno gli effetti nel lungo periodo. Allora, questo era questa citazione che tu non hai sentito perché parlavi con Andrea che ti distraeva. Che non era d'accordo con te, poi, tra l'altro. Vabbè, sì, ok. Poi voglio vedere se ha il coraggio di prendere il microfono e di dirlo. Arriva. era Antonio Raschi, direttore dell'Istituto di Biotecnologia del CNR, che parlava di esperimento sul clima. Allora, questa è stata una citazione che ha prodotto molto scalpore tra i cospirazionisti del 2018, se non sbaglio. Quindi nel 2018, quindi una dichiarazione un po' di anni fa. Ma lui diceva appunto, bisogna stare molto attenti alle parole, soprattutto nel suo ruolo. Lui parlava proprio di esperimento climatico. Allora, se sicuramente lui si riferiva a qualcosa d'altro, cioè lui si riferiva al fatto che noi come specie involontariamente stiamo facendo una sorta di esperimento climatico perché stiamo introducendo nell'atmosfera tutta una serie di elementi che ci stanno portando alla sua rarefazione, alla sua trasformazione. E non abbiamo la più vaga idea di che cosa succederà dopo, esatto, cui l'esperimento. Esatto, per cui prende assolutamente la forma di un esperimento. È anche vero che però questa felice o infelice uscita, se vogliamo, che non va letta sicuramente come nella chiave di cospiratori che vogliono fare un esperimento sul clima per danneggiarci. E che si sono sbagliati in TV. Esatto, e che per caso gli è uscita in TV. Però è vero sicuramente che ogni New Economy nel suo essere terraformante rispetto al pianeta Terra in fondo procede a un esperimento. Questo insomma lo si può dire fuori di metafora, se no. No, no, ma diciamo che è come dicevo prima, è comunque innesca dei meccanismi di cui non ha molto ben chiare gli esiti finali, quindi sì. Sì, quindi è un esperimento a tutti gli effetti, quindi leggiamolo per come l'ha detto, non in chiave cospirazionista, nel senso che non in chiave di una piccola elite di sperimentatori diciamo capitalisti, ma di uno sperimento più generale voluto dal capitalismo, ma non necessariamente, no, diciamo determinato più che voluto, al di là del bene e del male da questo punto di vista, cioè nel senso il capitalismo ovviamente agisce al di là del bene e del male per la propria sopravvivenza, poi per noi è tutto sempre, poi chiaramente per noi è male, noi che ovviamente, ma anche per i capitalisti stessi, quindi fondamentalmente si tratta sempre di una come dire di un'azione al di là del bene o del male. Noi in questo caso ci interessa analizzare, poi dandone un giudizio di valore politico sicuramente, però quello che è l'effetto di queste procedure su quelle che poi su quello che è il nostro clima, su quello che è il nostro ambiente, e da lì muoverci politicamente criticandole, combattendole o affiancandole quando per caso qualche cosa stranamente in qualche modo può essere colluso in maniera positiva. E quindi veniamo alla domanda, se è un esperimento nell'ottica in cui dicevamo, in che cosa stiamo trasformando la Terra? Per questo che prima non ti rispondevo, perché voglio arrivare a questo punto, diciamo, in cosa stiamo terraformando la Terra, a partire proprio da quegli marcatori, da quegli indicatori, attributi dell'antropocene di cui parlavamo prima. Questa è la domanda per te, Bimo. Beh, la domanda, allora la risposta a dove tu mi stai guidando è... portiamo esame oggi. Lo so, oggi infatti sto sudando. Il vino che ha portato Andrea non basta a rilassarmi. E, dicevo, quello che si può immaginare, coerentemente col discorso che abbiamo fatto fino adesso, è che alcuni meccanismi economici di cui abbiamo parlato relativamente ad altri pianeti, in qualche modo vengano introdotti anche sulla Terra, diciamo il supporto vitale, per esempio, che diciamo fino a questo momento era sostanzialmente al di fuori dell'economia, almeno in alcune sue parti, l'aria, l'acqua, alcuni suoi aspetti, sì, non erano diciamo erano tenuti fuori diritti naturali dalla dimensione economica, e mentre invece sempre di più non per almeno apparentemente non per una scelta ma per una necessità, l'acqua scarseggia, che poi adesso guardiamoci in faccia, l'acqua scarseggia, ma dove va l'acqua? Cioè, certo, scarseggia perché l'uso che ne viene, esatto, fatto l'acqua non può è sperequato come al solito. Esatto, non può scomparire, quindi l'acqua come fa? Non scarseggia l'acqua, non può scarseggiare. Se la trasformi tutta in Coca-Cola, sì. La imbottigli tutta. Sì, poi la tieni imbottigliata e non la beve nessuno. Esatto. Allora sì, allora in quel caso effettivamente c'è un sequestro dell'acqua, però... l'acqua non può scarseggiare. Su Marte l'acqua scarseggia, per conto. come l'aria. Esatto. Allora sì, però la si può far scarseggiare anche qui. Si decide che scarseggia e ci si comporta di conseguenza, non per una volontà, ma per necessità. Mi hai dato soddisfazione, perché in realtà io penso che lo pensi pure tu, insomma, fondamentalmente è quello che pensiamo, che in realtà questo modo di produzione, proprio perché è un modo di produzione che guarda al di fuori, il primo che guarda seriamente, veramente al di fuori del pianeta Terra, stia equiparando in qualche modo la Terra a un valore medio multiplanetario, no? Noi abbiamo sentito all'inizio. O la stia avvicinando, nel senso, probabilmente non arriverà mai ad essere, o speriamo che non arrivi mai ad essere comparabile a Marte o a un pianeta che è no, però alieno, aspetta. Ma no, aspetta. Aspetta, fermiamoci su questo punto. Terra e Marte potrebbero incontrarsi a metà strada nel momento in cui terraformiamo Marte. Esatto. No, ma io quello che si può fare è diminuire la differenza tra i due ambienti. Arriverà un momento in cui è una trasformazione. Sì, no? Arriverà un momento in cui Marte si avvicinerà sempre di più alla Terra, ma la Terra si avvicinerà sempre più a Marte. Si allontanerà sempre di più dalla Terra. Esatto. E quindi... in un valore medio che sarà il valore medio tipico della cosiddetta fabbrica multiplanetaria allargata. Esatto. Cioè, quindi dicevamo, così come la città è stato l'ambiente in cui è maturato il proletariato tipico della prima e della seconda rivoluzione industriale, quindi quell'ecosistema lì, il valore medio assunto dalla Terra attraverso i marcatori dell'antropocene la sta trasformando esattamente in un ambiente medio di che cosa esattamente? Di quello che gli astrobiologi e gli astrofisici chiamano la cosiddetta zona abitabile. Che cos'è la zona abitabile? La zona abitabile è quella zona che si differenzia a seconda del sistema solare in cui la andiamo a individuare, ma in cui l'acqua virtualmente, se esiste, è allo stato liquido. Nel nostro sistema solare questa zona abitabile si pone da il limite di Venere, diciamo almeno della parte temperata di Venere, fino alla parte temperata di Marte, no? Sostanzialmente, anche se poi su Marte l'acqua c'è, sappiamo, ma è ghiacciata, però insomma diciamo è comunque facilmente riscaldabile, quindi viene, può trasformare in alcune zone, sì. In alcune ore si scioglie. Quindi in qualche modo questo allargamento, questa espansione dell'ecosistema sarà anche un'espansione del mondo della fabbrica allargata, del mondo lavorativo, che si collocherà appunto in questa zona abitabile di cui la Terra a quel punto costituirà solo il valore medio. Sì. Allora, tornando quindi ai marcatori dell'antropocene, i marcatori dell'antropocene sono quei marcatori che ci stanno mostrando che in realtà noi ci avviciniamo come pianeta sempre di più a un pianeta alieno. D'altro canto, come si terraformerà Marte? In parte prima l'abbiamo detto, facendo una cosa che noi sappiamo fare benissimo, riscaldando il pianeta, col riscaldamento globale. Sì, diciamo che in realtà ci sono diversi tipi di intervento, perché Marte ha un problema anche magnetico, cioè ci sono anche tante altre cose. Però sì, certo, diciamo che molto, molto più, in qualche modo più semplicemente, il nostro ruolo di specie in grado di trasformare un pianeta va definendosi sempre di più, cioè noi siamo sempre di più una specie che è in grado di farlo, e non è un qualcosa che siamo sempre stati in grado di fare, cioè noi è una capacità che nel bene e nel male, più nel male che nel bene se vogliamo, noi andiamo maturando e diventa sempre più evidente, cioè la nostra capacità di provocare trasformazioni in tempi molto veloci su una scala planetaria cominciano a manifestarsi in questi anni sostanzialmente. È chiaro che non è una cosa che è iniziata ieri, è il punto di arrivo o comunque fino adesso di un processo molto più lungo, però in questa nostra fase noi siamo in grado di fare una cosa del genere, lo vediamo intorno a noi. Lo stiamo facendo, te lo ripeto, secondo me lo stiamo facendo, siamo bravi a farlo più o meno accidentalmente, ed è vero, sarà uno solo degli elementi della trasformazione, della terraformazione di Marte, però fondamentalmente è uno dei principali, proprio perché nel momento in cui avremo delle cupole geodetiche in grado di chiudere, fermare dell'atmosfera, questo ce lo insegna anche appunto la Low Friction Marte, il problema sarà riscaldare il pianeta, cioè ovvero rirendere di nuovo liquida l'acqua ad una dimensione maggiore di quello che è già, è meno casuale di quello, cioè diciamo meno, più che meno casuale, meno legato alle stagioni di quello che di stagioni marziane che come avviene adesso. E quello lo sappiamo fare perché il riscaldamento globale, in fondo, per quello che parlavo proprio di un avvicinamento tendenziale, no? Io me lo raffiguro proprio come se i due pianeti si avvicinassero, però non si avvicinano fisicamente, ma insomma si avvicinerebbero nell'aspetto. Una Terra sempre più antropicizzata e un Marte sempre più terraformato, che a un certo punto si trovano sul livello medio di, diciamo, di equilibrio, in cui si assomigliano sempre di più, in modo da garantire un ambiente più simile possibile alla forza lavoro, che tra l'altro vedremo nella prossima puntata dovrà essere necessariamente una forza lavoro trasformata non solo più nella psiche, non solo più nelle mansioni, ma probabilmente anche fisicamente. Eh sì. Allora io mando adesso un brano che tu dedichi a Zubrin. Vuoi fare una dedica tua a Zubrin? No, ma non lo diciamo che il brano è stato dedicato dal suo autore a Zubrin. Ah, scusa, avevo pensato che fosse una tua dedica d'amore a Zubrin. No, assolutamente. Ah, okay. È una dedica, non so se proprio di amore, ma di Frank Black a Zubrin. Quindi... Ok, e là ce la sentiamo. Questo era Frank Black, grazie Bimo per averlo messo, perché in realtà era Frank Black and the Catholics, per essere proprio precisi. Sì, sì, no, ma grazie, perché Frank Black ha costituito un punto di riferimento per la mia costruzione fantascientifica da bambino, che devo dire. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, quindi è importante. Vabbè, sì, da un po' più da bambino, già un po' grandicello, però insomma, no, assolutamente sì, con i suoi riferimenti a tutta la filmografia 50, 60. di fantascienza, insomma, lui mi ha fatto scoprire quel versante lì americano, insomma, io già conoscevo quello russo, no, sto scherzando. E, beh, insomma, allora siamo arrivati un po' a una definizione di alcuni dei marcatori del capitalismo spaziale, e ci siamo arrivati aggiungendo a quelli tipici dell'antropocene quello anche dello svuotamento della città. E con Paolo, che immagino che sia in linea, ciao Paolo. Ciao. Ciao, ciao Paolo. Ciao. Paolo dei Blocchi Precari Metropolitani, BPM, con cui vorremmo un attimo approfondire questa questione. Ma ovviamente Paolo non si occupa di capitalismo spaziale, almeno che tu non abbia sentito la trasmissione e ti sia convinto che è il nuovo fronte su cui politicamente lavorare. Vuoi cambiare la tua vita? Ci sei, Paolo? Sento. Sì, ci sono. Sto cercando di cogliere le parole perché sento un po' metallico la tua voce. Insomma. Ah, ecco, quindi il solito problema. Senti un po' meglio così? Più lentamente, così mi aiuti. Ok, allora. Paolo, no, dicevamo, in qualche modo siamo arrivati, se hai sentito la trasmissione fino adesso, siamo arrivati a parlare di svuotamento della città. Chi meglio di te? Tu un po' di tempo fa, una cosa abbiamo fatto insieme, parlavi di una sorta di nomadismo funzionale, no? Diciamo, di questo svuotamento della città, di questa mobilitazione continua, soprattutto per quello che riguarda i migranti nella città, funzionale. Funzionale a che? E, cioè, intanto che cosa significa e poi funzionale a che cosa, a che tipo di principio, nuovo principio cittadino? Sì, credo che poi questo aspetto qui sia anche più accentuato, è come se la necessità di insediarsi in serenità, diciamo, in un luogo della città che possa in qualche modo diventare anche un insediamento definitivo che viene auspicato, diciamo, come possibile dinamica anche di pacificazione, in realtà non è più possibile, cioè, nel senso che questa dinamica che spesso noi abbiamo vissuto dentro le dinamiche di riappropriazione non fosse più accettata come forma di ammortizzatore sociale, cioè nel senso che gli abitanti devono tornare di nuovo in movimento, cioè nel senso che il concetto di abitante che si insedia, che si produce come comunità e anche come comunità interessante, no? Perché si meticciano tante istanze, tante provenienze, tante culture, diventa sostanzialmente un po' pericolosa questa cosa, e anche questa voglia di fermarsi, e per cui bisogna impedire che questo accada, e per cui la gestione dell'emergenza in qualche modo consente di nuovo il nomadismo, no? Per cui c'è una dinamica funzionale. Faccio l'esempio della soluzione che si è trovata per via del Caravaggio, Allora, quella è una soluzione bella, no? Cioè le famiglie dopo tanti che è anni... Che è un'occupazione abitativa. Che... Sì, di occupazioni, ha una casa, ha un alloggio, però che cosa accade? Che si disperde dentro il territorio, cioè non c'è più la comunità, non c'è più l'insediamento, tornano a essere nomadi, nel senso che vanno verso le loro abitazioni in giro per la città, dispersi, frammentati, e per cui aiutano un meccanismo di in qualche modo ammortizzazione differente di una situazione un po' più effervescente, un po' più mobilitata, diciamo, in qualche modo. Ma perdone, ma il rendere però continuamente dinamica, fluida, la non, come dire, rendere evidente il non diritto alla stabilità, all'accesso alla città con i suoi servizi, ma anche con la certezza del dimorare, dell'abitare, è funzionale secondo te a qualcosa o è un processo accidentale, casuale? No, credo che sia molto funzionale, cioè se ci siamo un po' capiti, cioè quello che noi produciamo, no? Nel momento in cui c'è uno spostamento dentro la città si individua un luogo, è un po' come partire con un razzo, come è accaduto anche nella simulazione che si è fatta con Space Metropolis eccetera, e approdare in un luogo migliore di quello dal quale ti vuoi spostare, no? Cioè, vai a realizzare un sogno, una possibilità, ti svincoli dai controlli che immagini che oggi non ti consentano di vivere in tranquillità, in pace, eccetera, eccetera. Per cui individui un luogo. Nello stesso modo accade quando tu approdi in uno spazio che liberi, che abiti e che vivi con la tua giornata, eccetera, eccetera. Perché questo non viene consentito? Perché bisogna ritornare di nuovo a mettere in movimento questa dinamica che è approdata da qualche parte? Perché è un problema, cioè l'approdo auto-organizzato, mo uso un termine che forse è un po' così poco adatto a questa trasmissione che voi fate, però in realtà è questo, cioè nel senso che quando tu decidi cosa fare della tua vita e parti, ti muovi e atterri da qualche parte, sembra che questa roba sia una cosa accettata, no? In qualche modo, perché risolve un problema. Un po' di gente magari nemmeno tanto gradita si muove, se ne va da un'altra parte, eccetera. Però questo dura il tempo che deve durare, non ha una sua stabilità infinita, e riproduce un meccanismo di movimento di queste persone, però non più come quello precedente, cioè non sei tu più a decidere dove andare, ma c'è qualcun altro che ti dice dove devi approdare, devi atterrare, devi andare e ricominciare da capo una tua esistenza. Lì c'è una funzionalità, no? Alle dinamiche di controllo, secondo me. Noi non riusciamo a sfuggire a questa cosa, perché quella è una soluzione, è una cosa che comunque è gradita, no? La creazione continua di una emergenza, fondamentalmente, che è funzionale poi a pratiche di controllo, ma anche in asprimento, fondamentalmente. Certo. Per cui conviene mantenere l'emergenza piuttosto che favorire la stabilità. Cioè, è incredibile questo fatto qua, no? Cioè, una dinamica, come si dice, statale di gestione del potere dovrebbe ambire a una dinamica di stabilità che gli consente il controllo. Il paradosso è che il controllo passa attraverso l'emergenza e attraverso una mobilità permanente delle persone, diciamo, da questo punto di vista. L'importante è che non decidano loro dove andare, e che sia tutto ricondotto all'interno di una dinamica di controllo degli spostamenti. Mi chiedevo se questa dinamica che i BPM analizzano ad un livello macroscopico, anche con i migranti, con le situazioni della negazione del diritto all'abitare in generale, la riscontraste anche su quelle pratiche singolarizzate che oggi vengono definite di design ostile, cioè se secondo te sono lo stesso tipo di processo, no? Il fatto che anche il cittadino, se vogliamo, no? Il legale, cittadino legale, il cittadino che non è un migrante, oggi si ritrova un po' nella situazione di perigrazione continua, di movimento continuo, perché non può più sostare, perché non si può più fermare, non può più adagiarsi su una panchina, deve circolare, deve muoversi in continuità, anche nell'ottica proprio delle politiche, spesso del decoro, no? Che vengono osannate e vengono promosse. Ti chiedevo se secondo te esiste un link, un legame tra tutte le due procedure, una macro e una sicuramente singolarizzata, privatizzata, di guerra interna, fondamentalmente, se l'altra è una virtuale guerra verso il mantenimento della migrazione nei migranti, dall'altra c'è una sorta di guerra interna al cittadino regolare che però è in qualche modo anch'esso visto come necessariamente come colui che deve migrare dai singoli posti, dai singoli luoghi. Sì, allora la cosa che tu hai detto è talmente evidente nelle città, forse a Roma ancora riusciamo un po' a sfuggire, ma mi dicono che al nord, per esempio nelle città, nelle metropoli più grandi, questa cosa di non poter sostare, di non poter mangiare il panino nei pressi di un monumento è un fatto ormai definito e formalizzato, ma basta dire il divieto che c'è sulla scalinata di Trinità dei Monti di sostare quando quella è la cosa più gradita che un uomo o una donna possono fare durante una passeggiata, no? Fermarsi, sedersi su un gradino, farsi due chiacchiere, mangiare un gelato o qualcosa del genere, e magari anche stare fuori dalle dinamiche classiche di sedersi in un bar o cose di questo tipo. Ebbene, questo non è più possibile, poi si arriva a tutte le dinamiche legate alla movida, eccetera, eccetera. Io ritengo che, dico una cosa forse un po' esagerata, però penso che sia abbastanza vero, che l'obiettivo che c'è in campo oggi rispetto a queste forme di controllo sulla sosta e su come la città deve essere vissuta e attraversata, punta ad una città disabitata sostanzialmente, una città disabitata dagli abitanti, cioè che gli abitanti non sono più un soggetto gradito dentro le città, devono stare nelle loro case, devono essere sostanzialmente invisibili e poco fastidiosi, e soprattutto non devono essere nomadi, non si devono muovere, non devono sostare, non devono vivere liberamente. Devono percepire lo spazio pubblico come spazio ostile. Sì. Cioè arriviamo a paradossi veramente rilevanti che sembrano incredibili, ma che sostanzialmente sono la verità, per cui la tendenza a muovere continuamente le persone in maniera isolata e non farle assembrare, per cui c'è tutta la questione del distanziamento, eccetera, eccetera, introduce una serie di meccanismi che devono diventare poi culturalmente formalizzati e divide sostanzialmente la popolazione tra chi ha trovato un luogo dove stare, un luogo però consentito e formalmente apprezzato anche da chi governa, e invece una popolazione che è fuori da questi meccanismi, che trova luoghi dove ripararsi, a volte non li trova nemmeno e muore di freddo, e questa popolazione qui deve solo essere in qualche modo di nuovo rimessa dentro una condizione di controllo. E sono tante le forme che vengono messe in campo, comprese quelle che dicevi rispetto al decoro e alla gestione della città. Per esempio c'è il dato di chi si muove con la coperta in mano per portarla a chi ha freddo, che viene immediatamente impedito in questo movimento, e la coperta se la deve riportare a casa, perché il reato di solidarietà è un reato ormai conclamato e perseguito, per cui quella persona con quella coperta in mano che si è mossa dalla sua casa per andare verso una persona che aveva bisogno rimane nella sua casa, non si muove più, perché è soggetta a un controllo che non si aspettava e che, anche se ritrova sbagliato, non riesce a superare. Paolo, ti volevo chiedere, dimmi. No, volevo dire soltanto che quando nei nostri percorsi decidiamo di entrare in un luogo, sostanzialmente noi cerchiamo di rimuovere questo aspetto, di produrre un passaggio verso un pianeta che non è esplorato. Per questo ci piace anche il modo in cui affrontate il ragionamento, e quel pianeta però ci viene poi immediatamente in qualche modo sottratto, cioè c'è il tentativo di impedire che si realizzi l'insediamento. L'insediamento, eccetera. Allora, io ti volevo chiedere una cosa, poi l'ultima domanda ti volevo fare, almeno che poi Bimo, che qui conduce con me, non abbia altre domande, ma io ti volevo portare su un terreno un po' più generale, chiedendoti dal vostro punto di vista del diritto all'abitare, dell'accesso alla città, si potrebbe parlare oggi forse in modo più generale della fine dell'esperimento della democrazia borghese, iniziato se vogliamo con la fine della Seconda Guerra Mondiale fino forse al 2000-2001, diciamo agli anni, diciamo al nuovo secolo? Secondo te, dal vostro osservatorio, si può parlare di una svolta epocale negli ultimi anni, negli ultimi vent'anni, decenni o quantomeno, veramente di fine, non parlo di democrazia in generale, parlo di democrazia borghese, però di un sistema che in qualche modo con le sue ipocrisie e con i suoi limiti ancora garantiva, anche se molto conflittualmente, garantiva al di là del conflitto, diciamo, a meno che non vi fosse un conflitto in campo aperto, però garantiva alcuni diritti che oggi vengono sistematicamente invece tolti e che quindi segnano la fine di questo esperimento breve, piccolo, di democrazia borghese o comunque di democrazia come l'abbiamo intesa dal dopoguerra ad oggi. Sì, assolutamente sì. Cioè, anche la dinamica conflitto trattativa, che è un meccanismo insito dentro le forme di democrazia borghese, non c'è più. Cioè, oggi il conflitto diventa estorsione, cioè c'è proprio una narrazione differente di quelle forme che, per esempio, rispetto al terreno del diritto all'abitare o più prosaicamente del diritto alla casa, hanno fatto sì che le occupazioni abitative diventassero poi uno strumento di trattativa derivante da un conflitto anche forte, ma che poi garantiva un alloggio a chi era dentro questo percorso di lotta. Questo non avviene più. È come se non si venisse più riconosciuti come controparte, forse? Non ho capito. È come se mancasse anche il riconoscimento come controparte in una trattativa, cioè non hai nessun diritto, non sei nessuno. Credo che sia una scelta, cioè è una scelta di arretramento anche dal punto di vista di alcune questioni che sembravano irreversibili, no? Che erano insite alle dinamiche democratiche e borghesi, sono saltate, cioè quella dinamica classica in cui la modalità di conflitto veniva accettata come forma che poi produceva soluzioni e spostava in avanti anche la stessa lancetta della democrazia borghese, questa roba non avviene più e credo che ci sia una scelta definita e definitiva, nel senso che quello che prima era una formulazione, diciamo, tra virgolette, di gestione della pace sociale attraverso gli strumenti della democrazia e della trattativa, non è più plausibile, perché la coperta è talmente corta dentro le dinamiche capitalistiche che si sono prodotte, che una parte della popolazione deve essere abbandonata a se stessa, non può più essere coperta da forme che la democrazia borghese prima in qualche modo assolveva. Tra l'altro, Paolo, stiamo parlando di diritti della democrazia borghese, ma che in realtà sono diritti conquistati dalle lotte operaie all'interno delle democrazie borghesi, però insomma, diciamo, scusa? Esattamente. Ah, sì. Nel senso che c'era un docente di diritto costituzionale che ci diceva candidamente che la Costituzione, che è un pezzo di percorso della democrazia borghese in questo paese, si può applicare solo attraverso rapporti di forza che consentano di applicarla. Cioè, per cui se vengono meno rapporti di forza e dinamiche conflittuali, anche la Costituzione diventa un pezzo di carta inutile e che non risolve nulla. Sul diritto all'abitare questa cosa è più che vera, perché per esempio il diritto proprietario può essere esigibile in un tribunale, mentre il diritto alla casa non può essere, certo, assolutamente esigibile, certo, sul luogo, ma nella Costituzione è un diritto, certo, in teoria garantito. Sì, certo, per cui noi, certo, quando ce lo andiamo a trovare questo diritto e partiamo con le nostre astronavi verso nuovi luoghi da abitare, c'è un tempo in cui questa strada è consentita, ma c'è un tempo che non è più quello che produce la soluzione, è un tempo che ti porta verso essere cacciato via da lì, ritornare nomade, oppure un alloggio popolare che ti consente di cambiare la tua vita, ma te la in qualche modo riporta nuovamente in un meccanismo nomadico. La tua stabilità che ti hai ritrovato insieme ad altri non c'è più. C'è un'altra forma di stabilità che è quella consentita, che è quella formale. Va bene Paolo, io ti ringrazio moltissimo. Tra l'altro questa ultima domanda era anche, diciamo, funzionale un po' all'idea che stiamo sviluppando nella trasmissione, del fatto che dagli anni 2000 viviamo un rivoluzionamento complessivo di quello che è una fase nuova del modo di produzione, che è appunto il modo di produzione del capitale multiplanetario, e che quindi introduce delle novità drammatiche, nuove, ovviamente sulle persone, cosa che svilupperemo soprattutto nella prossima puntata quando parleremo di forza lavoro. Grazie, niente, quindi come al solito viva noi e abbasso loro e andiamo avanti. Grazie Paolo. Grazie a voi, ciao, buona serata, ciao, grazie. Ciao, un abbraccio, ciao. Allora torniamo quindi a, come dire, cercare di ricontestualizzare le parole di Paolo all'interno di quella che sono un po' la condizione che stiamo andando ad analizzare, ma in fondo si tratta più o meno di quello che dicevo, no? Anche Paolo, sì, dal suo osservatorio ci conferma questa idea di svuotamento. Noi la inseriamo all'interno dei marcatori del capitale multiplanetario e soprattutto questa questione della trasformazione di questo esperimento della democrazia borghese, che evidentemente ha funzionato all'interno del modo di produzione capitalistico nella sua fase della prima, seconda rivoluzione industriale, ricordiamolo, solo grazie esclusivamente alle lotte operaie, non perché i borghesi l'avessero, come dire, iscritto nel proprio DNA, ma che stanno man mano sparendo, probabilmente proprio perché il neoliberismo, il neocapitalismo che guarda le risorse spaziali non ne ha più assolutamente bisogno, ne può fare assolutamente a meno. Io vado con un brano e poi torniamo in studio quasi per i saluti, perché in realtà si è fatta una certa ora. Sì, questo brano lo dedico a te, Bimo, vediamo se riconosci. Che bello. Vediamo se riconosci. Ah, però c'è la domanda. Però come al solito dopo c'è la domanda per capire. L'esame non finisce mai. Mai. La da da da da. I'm gonna bury you in the ground. La da da da da. I'm gonna bury you with my sound. I'm gonna drink the red from your pretty pink face. I'm gonna... Marceline, that's too distasteful. Oh, you don't like that? Or do you just not like me? Sorry I don't treat you like a goddess. Is that what you want me to do? Sorry I don't treat you like you're perfect, like all your little loyal subjects do. Sorry I'm not made of sugar. Am I not sweet enough for you? Is that why you always avoid me? That must be such an inconvenience to you. Well, I'm just your problem. I'm just your problem. It's like I'm not even a person, am I? I'm just your problem. Well, I shouldn't have to justify what I do. I shouldn't have to prove anything to you. I'm sorry that I exist. I forget what landed me on your blacklist. But I Allora, Bibo. Non lo so. Allora, questa era Marceline della serie Adventure Time. Ah, la vampira. Ah, e tra l'altro, certo, una delle vocine che a un certo punto si sentono. Il pezzo non, non lo conosco. Che è bellissimo, ok. Ma una delle vocine è proprio Bibo. Eh beh, certo. Quindi, insomma, è dedicato a te, e come al solito ci sei caduto dentro. Sì, assolutamente, io sono un ignorante. No, insomma, no, no, io mi ero innamorato di questo brano sentendolo nel cartone animato, però poi in realtà non è neanche il mio genere, quindi non l'avrei mai trovato, però insomma mi piaceva farti questo piccolo omaggio che tu non hai, però non hai colto. Assolutamente no. Prossima puntata, Bimo, di che cosa parleremo? E di che cosa parleremo? Parleremo, penso, della Marzo Serie che abbiamo introdotto oggi, perché ci sono parecchie cose interessanti da dire, sia a proposito del terraforming, perché la Marzo Serie si pone dei problemi, per esempio, etici legati al terraforming, risolvendoli in un modo che non mi trova per niente d'accordo, ma se non altro se li è posti, per dire. Di etica altra, diciamo. Esatto, esatto. Cercano di porseli in termini il più possibile, secondo loro, imparziali e scientifici, poi arrivano a un esito che poi vedremo nella prossima puntata, che è piuttosto discutibile, sì, come anche si pongono il problema di in che modo costruire una società una volta colonizzata Marte. Anche qui arrivano a delle conclusioni che troveremo discutibili anche loro, ma le troveremo nella prossima puntata probabilmente. Allora, io qualche tempo fa lessi un piccolo trattatello di ecclesiologia marziana, quindi di costruzione delle, anche di questo si parla, costruzione di culti su Marte. Sì, la vera cosa interessante della Mars Society, probabilmente, a parte le sue i suoi aspetti più appariscenti, che sono tipicamente delle persone vestite con delle tute spaziali evidentemente fatte in casa, che si aggirano per il deserto dello Utah facendo finta di... Però il programma Mars Society è stato incluso all'interno degli allenamenti NASA. Sì, sì, sì, sì, sì, quindi, sì, sì. Insomma. Sì, però diciamo che questo è il loro, diciamo, il loro aspetto più appariscente, ma c'è un aspetto di produzione culturale, di produzione di documenti, di articoli, che secondo me è ancora più interessante, e che magari... Parleremo anche di ESA Cave? Può darsi di sì, ma è il modo in cui i cosmonauti o astronauti europei si preparano qui in Europa, vivendo all'interno delle grotte, quindi facendo gli speleologi. È vero, certo, certo, certo. Questo è una, diciamo che ricordiamocelo. Sì, ricordiamocelo. La Mars Society in realtà è uno spunto da molti punti di vista, perché ha una dimensione tecnologica, una dimensione legale, una dimensione sociologica, anche se vogliamo, e etica, che dà molti spunti, arriva, come dicevo, a delle soluzioni dal nostro punto di vista discutibili al punto di essere inaccettabili, però si pone il problema, il che è già un risultato. Beh, allora, prossima puntata parleremo di tutto questo, quindi abbiamo detto Isaac Cave, Mars Society, ma parleremo soprattutto, visto che oggi abbiamo parlato delle trasformazioni ambientali, parleremo quindi, concetti che sono legati a quelli che diceva Bimo, la trasformazione della forza lavoro, che poi è parte della trasformazione dell'ambiente, ma come ci trasformeremo davvero, cioè come ci trasformeremo sia dal punto di vista fisico, sia dal punto di vista mentale e psicologico, per produrci, per abituarci a quella che è la terraformazione della Terra e quella che è la fabbrica multiplanetaria allargata, fondamentalmente. E il fatto che questa fabbrica sia fatta da Bezos e da Elon Musk dovrebbe darci qualcosa, un indizio. Tra l'altro, una delle cose cosmo anticapitaliste, che oggi ne abbiamo parlato poco, a parte il sempre presente Andromalis, ma di cui volevo parlare, era lo xenofemminismo, ma è saltata come cosa per brevità, cioè per lunghezza, ci siamo un po' dilungati, ma ne parleremo la prossima puntata, lo porto avanti per la prossima puntata, perché per quello che riguarda, anzi forse era più adatto effettivamente, gesto che ci penso, alla prossima puntata, quindi è perfetto. E parleremo quindi di trasformazione del corpo, non necessariamente in vista della fabbrica multiplanetaria in questo caso, ma che, come per l'antropocene, ha delle strane coincidenze, particolari coincidenze anche col modo in cui il capitalismo vuole trasformarci. Quindi insomma, una puntata ricca di elementi, di spunti anche per immaginare noi stessi nel futuro, magari non proprio noi, ma insomma insomma, diciamo, quelle generazioni che verranno. E per attenderlo con trepidazione. Assolutamente. Salutiamo tutti, salutiamo come al solito Forte Prenestino, che senza Forte Prenestino non saremo qui e non faremo tantissime belle cose, tra cui la radio, cioè Radio Forte, seguitela in tutto il suo palinsesto, in tutti in i tutto suoi il suo splendore. In tutto il suo splendore. E anticipazioni e podcast li trovate sul sito di Forte Prenestino, forteprenestino.net, in cui trovate anche la sezione dedicata alla radio, la sezione dedicata a Boca Chica Cosmodrome e tutti i suoi podcast. E salutiamo e ringraziamo tutti i compagni che anche oggi ti hanno dato una mano, un'enorme mano al, a premere i bottoni giusti. Esatto, a premere i bottoni giusti, sempre noi, sempre prese col DBX che abbiamo tanto preso, col compressore DBX che abbiamo preso tanto in giro, che alla fine oggi stava per segarci le gambe. Esatto, ci sta ripagando della moneta. Ci scusiamo, anzi all'inizio abbiamo avuto un problema tecnico, quindi le voci erano un po' basse, addirittura Bimo non c'era proprio però ne siamo venuti a capo. E le ultime due cose con cui vi lasciamo, come tradizione ormai, questa vi ricordo che era in realtà la decima, ma in realtà ancora la undicesima puntata. Undici puntate. Non so se rendo. E citazione che ci introduce come al solito alla prossima puntata. Adesso vedremo anche perché i nostri saluti sono sempre un po' lunghi ed è bello che sono così, sia così, perché sono saluti alla romana. Perché noi ci teniamo ai saluti. Esatto. Ritratto di un Führer di serie B di nome Peter Vollmer. Un uomo meschino che si nutre della sua mediocrità ed è costantemente affamato di quella grandezza che non possiede. E come i suoi predecessori del passo dell'oca, cerca la spiegazione di questa fame e del perché il mondo gli passi davanti senza rendergli onore. Ciò che lui cerca e infine trova è in una fogna. Nel suo gergo contorto e alterato lui la chiama fede, forza, verità. Dove se ne andrà adesso questo fantasma di una... E va bene, tagliamo anche questa citazione, tanto il succo era stato detto, stasera abbiamo tagliato pezzi, citazioni, tutto. L'hai riconosciuto il doppiatore, ovviamente? Assolutamente no, assolutamente no. Rod Serling. Rod Serling, quindi, è confine della realtà. Ah, ok. In questo episodio in cui appunto si spinge in una definizione del fascismo come fogna. Eh sì, mi sembra proprio classico. Mi sembra molto interessante. Esatto, Rod Serling, diciamo, sì, che definisce i fascisti fogna. È come non dargli retta, anche se poi anche Rod Serling non è che fosse proprio uno stinco di santo, ma insomma, in fondo... aveva anche lui ogni tanto un'intuizione. Esatto, aveva ben d'onde di definire i fascisti come dei tombini. Va benissimo. Beh, insomma, perché di fascismo? Di fascismo se ne sta riparlando tanto, e quindi anche di antifascismo se ne sta parlando, se ne è parlato prima del Covid, se ne riparla anche sotto Covid e se ne riparla anche in quei processi che abbiamo analizzato con Paolo di fine, come dicevamo, di esperimento della democrazia borghese, e vedremo se di fascismo si potrà parlare nel momento in cui parleremo di trasformazioni del corpo, no? Nel momento in cui dovremo parlare della trasformazione del corpo che si adegua a questo nuovo modo di produzione, se il fascismo ci rientrerà, perché se rientrerà in qualche modo tutta una serie di processi coercitivi rispetto a questa trasformazione. Non dormirete per una settimana. E il vaccino anti-Covid potrebbe essere il primo elemento di questa trasformazione. No, sto scherzando. Non voglio diventare un Novax associato. Allora, era una delle pochissime trasmissioni dove non si parlava di queste cose e quei tempi bellissimi sono finiti. No, giuro che nella prossima non se ne parla, però non se ne era mai parlato, quindi abbiamo accennato qualche cosa. Allora, e chiudiamo e salutiamo tutti con un pezzo strano di un, tra l'altro per un nerd come te dovrebbe essere il pane quotidiano, anche qui l'ultimo esame, che si chiama How It's Made. Ti dice niente? Zero. È la sigla di un perché io non sono un nerd. Vabbè, tu vabbè. Sei un nerd. Sì, vabbè, vabbè. Vabbè, vabbè. Dai, come è fatto? Sì. Lo conosci? No, programma? Fammi sentire. No, come è fatto è il titolo praticamente la sigla di questo programma che non so se va ancora. Io anni fa mi è capitato di vedere, poi me li sono rivisti su internet, di questo programma fatto da non mi ricordo quale canale satellitare, forse. No, guarda, no. No, ma bellissimo, no, perché no, facevano vedere come sono fatte dentro le cose. Quindi si spiegavano come hanno fatto i frullatori, come fatte le candele, le matite. Lo so che la musica era praticamente... Scherzo, non te ne potrebbe fregare di meno. Pochissimo. E la musica della colonna sonora era molto bella, asettica, assurda. E con questo davvero è tutto. Vi salutiamo a mercoledì prossimo per la 12ª puntata di Boca Chica Cosmodrome.